ci stiamo. Già la sedia, semplice. Boh, non ci no, stiamo. Ti alzi e ti siedi. Con siamo in diretta. Grande... No, aspetta, adesso. Siamo in diretta. Aperte. Vabbè, se vuoi posso tirarmi così. No, io avrei fatto, non avrei detto. Avresti andato alle spalle semplicemente a loro. No, no, no, verso il muro. Allora io sono in un altro... Va bene, benvenuti no, al 21esimo episodio di Unstructured Heroes. Il problema di rialzarti, allora, girare le gambe aperte. Se non avessi fatto 13 non sarebbe successo. Come forse avrete notato c'è un po' di casino, un po' di bagar, ma benvenuti in questo pomeriggio. E noi siamo Tycoons & Dragons e potete seguirci sulla pagina Facebook Tycoons & Dragons e anche quella di RIGDR e sul blog di RIGDR.wordpress.com. Che Vez dovrebbe girarsi, cioè Vez e Show dovrebbe girarsi, dovrebbe giocare e girare. Ah ok, come oggi vedete c'è il nostro master dal vivo, Edoardo Saladini, e con lui oggi master sceneggiatore. E con lui oggi ci sono io, Andrea Giacomo Vecchi, quello girato, se dovrà stare Stefano girato, Gamberoni, volete, Enrico Gattabriga, Giulio Bosi è girato. E anche Francesco Arcidiacolo, allora, detto il palestra. Spieghiamo perché. Io ho iniziato la sessione dicendo, se faccio 13 col di 20, Sceo, questo, dovrà passare la sessione girato verso il muro, e ho fatto 13. Quindi ringraziatemi se in questo video non vedrete la sua faccia. Tra l'altro non lo sentirete neanche perché parlerà verso il muro e non si capirà un cazzo. Noi non l'ascolteremo, quindi non avrete altre informazioni a riguardo. Va bene. Non cambierà molto dal solito. Un saluto, ecco, facciamo un saluto di Luca a Itnat Games e a Matteo Boris Botti che ci hanno accolto in settimana. E al loro stand non ci hanno neanche praticamente insultato e non ci hanno praticamente insultato senza alcun motivo, forse perché gli ho comprato un manuale che facciamo vedere. Dov'è? Chi me l'ha preso? È quello che ho lanciato in bagno, era finita a carta igienica. Non so. Scusa, okay, la mia roba è sposta. E abbiamo comprato questo manuale con posso girarmi questa illustrazione. No, Sceo, Sceo meno exp percuotilo percuotilo il gioco però fatto da Manuel Strano, che è il disegnatore. Ci vede un po' la faccia girata. Va bene, allora, questo è un po' che non giocavamo a Unstructured Heroes e vale la pena ricordare che si tratta appunto di Urban Heroes, appunto il gioco dei Itnat Games, e che è un bel gioco e noi lo storpiamo tutte le modalità possibili. È strano da mentre Salla si riprende e scopre... Ma il fantasmino di Pac-Man. Cazzo di laggo un po' però e sì. Mentre succede tutto questo noi diamo via alla sigla e poi dopo si vedrà chi farà il riassunto. Non tirarmi un dado, è la tua merenda, non è questo. È questa, siamo andato. Sì. Chi ha fatto il riassunto di Alta? Ho paura di scegliere questa. Ho paura del bello. Chi ha fatto il riassunto di Alta? Io vorrei vedere la scorsa. Potrei averlo fatto io forse. Tirate un dado da 20. Tu vuoi l'amaro? 17 20 26 Vuoi l'amaro? 6 Bene. Lui ha fatto 20. Giulio, lui decidi chi fa riassunto. Tra voi tre. Puoi anche scegliere te stesso. Puoi anche scegliere te stesso. È onesto, cazzo. Do il potere della scelta. Così non odiano me. Così non odiano me. Odiano lui. Probabilmente ci vai riassunti solo versione Giulio. Però. È come l'insegnante che dice: decidi chi deve fare questo. Così non puniscono l'insegnante. Secondo te è giusto che abbia dato 7? Esatto. Soffritti il premio Nobel. È giusto che non te 7 e mezzo d'arcidiacono? Non è totale. Quanto capito un cazzo la lezione. No. Un po' tanto, ma non te lo meritavi 7 e mezzo. Non te la sei guardata neanche a sto giro la sigla? No, senta Sgravity. Raps. Va bene, molto bene. Abbiamo cosa? Che cazzo di sigla è? No, non la canzone. Non credo. Va bene, ok. Sì, partiamo allora, dal riassunto. Vai, dell'ultima puntata. Fa riassunto. No, Giulia scelta cambia. Dai, fallo, non hai mai fatto un riassunto nella tua vita. Dai, raga, non mi ricordo l'ultima volta che sei rimasto. Prova a ricordarti, dai. Tuoi. No, prof, chi ha fatto di meno? Venezia non ha tirato. Venezia non ha tirato perché mi deve farmi un caffè e un amaro. Facci il caffè, spagnisco. Faccio prima l'amaro, però, o prima il caffè. Fai quel cazzo di pare, ma se mi dai, do una mano io, Venezia. No, fai il riassunto, che ti ho girato. Non me lo ricordo, raga. Io mi ricordo quando abbiamo comprato il capannone che dovevamo scegliere cosa comprare. Comprato. Ci hanno affittato i capannoni, li stavano litigando perché Vez voleva il letto. Spiegate a Sceo perché siamo il progetto. Sì, esatto, spiegate a Sceo tutta la storia. Cioè Sheo è rimasto. No, Sheo però deve seguire le puntate. Cioè, vabbè, che... dai, è come se Sheo fosse un qualsiasi ascoltatore, tipo Arci, si è scordato. Cioè, almeno i riassunti delle puntate. No, io mi ricordo in linea di massima, non mi ricordo i fatti. Bene, Kato, fai sto riassunto. Oh, bene. Facciamo fare riassunto a quello che soffre di amnesia nel gioco. Quindi. Nel gioco. Per ritornare al punto in cui ci aveva lasciato Sheo. Quindi eravamo ancora in una grotta in fredda e no, oscura. Ci eravamo svegliati al casetto di Vezzo. Abbiamo superato in maniera magistrale, grazie al mio prontissimo intervento, la prova del serpente di pietra. Okay. Ed eravamo riusciti a uscire da queste caverne, il preziosissimo reperto archeologico che noi abbiamo distrutto, pur di ottenere un libro. Che poi nessuno tipo ha letto, mi sembra di ricordare. No, io ho letto, ho preso più una forza. Caffè chi lo vuole? E... due? Altri? Come siamo usciti da queste grotte, c'è stato un boss fight nel quale io mi sono risvegliato in mezzo a gente sorda che veniva menata da un fantasma che non si poteva colpire. E... ero uscito col libro e poi quando mi sono ripigliato non era più con me, mi sembra. Esatto, abbiamo sconfitto in qualche modo il, anzi no, ci stavano menando di brutto quando poi sono passati a prenderci con una macchina il nostro amico Void. Mm-hmm. Void che si è ricomparso nonostante noi l'avessimo tipo preso a pesci in faccia. No, in realtà tipo... no, si era sacrificato. Esatto. Per salvarvi la vita. Esatto, tipo. E noi per sdebitarci quindi del nostro debito siamo fuggiti in un altro paese. Sì. È venuto a prenderci e dicendoci tanto allegramente che il era morto il cartomante. Esatto. Anzi, non era morto, è stato ucciso. Capito? Sembra da, proprio dal professore, cosa che noi pensavamo non fosse possibile perché il cartomante era uno dei guardiani con le gemme dell'infinito e le pietre magiche. Ciao Tato, ma è giorno, perché non mi hai chiamato? Ah, Tato? Tato? Tato? Tato, perché è giorno? Perché è giorno? C'è qualcosa che non quadra, è giorno. Comunque... comunque è Quao, non è ciao, mi sono sbagliato io, scusate. Ma Quao è lui. Quao è saluto. No, è Quao Tato. Non è Tato. Quao. Infatti sui suoi vestiti ACT, che è la sigla iniziale. Beh, puoi chiudere il giorno. Spegnere un po' il giorno solo. E quindi Void ci ha detto, non è più sicuro stare a Marsiglia, e aperta parentesi, che idea di merda che avete avuto venire qua, chiusa parentesi. Esatto. Ma questo è quello che ha detto voi. Che sta facendo il piedino? Meno 10 punti di esperienza. Perché avuto, no, perché lei avete avuto a venire a Bologna o a Marsiglia? Sì, Void era, era abbastanza. Sala quello che ero, che gli ruga. Vabbè, io parlo per i PNG. Esatto, io riferisco solo quello, esatto, che ho. L'ha detto Void, non è che. E quindi ci siamo organizzati per. Quindi in qualche modo voi eravate già in macchina, mi sembra, può essere. Sì, sì, sì, erano tutti in macchina. E ci ha riportato a. A Bologna, a Bologna dicendo bene, adesso dovete fare per conto vostro. E quindi ora la nostra missione è mettere su una scuola per giovani dotati, volevo dire una base dove allenare le nostre abilità. Che avete preso a? Periferia di tipo Zola, mi ricordo. Zona industriale Casalecchio, sì, intorno a Bologna. Comunque periferia di Bologna, fuori meridiano. Ok, cosa tu? E abbiamo preso un capannone e avete preso un capannino, esatto, che però è cresciuto nel tempo. Vabbè, durante il fight, sì, durante il fight è aumentato, vuoto. Vabbè, un magazzino, insomma. Sì, vuoto con un solo bagno e una sola grande stanza. Ok, e per ora è vuoto perché avevano un budget a spendere che non hanno speso, che era poi il vostro budget. Mi sa che tu hai dei soldi, forse degli Antolti, no? Tu non sei poi in debito. Non partecipavi. Ah, tu non partecipavi perché dovevi permetterti di riparazione alla gamba, perché teoria, sì, perché qualcuno ti ha sparato la gamba. Sì, cioè, non lo so. Tu hai sparato la sua gamba. Ma io? No. Sì. No, cazzo, è lui che è uscito fuori e ha detto, uccidetemi! Esatto. E gli hanno sparato la gamba. Ma dove? No, no, tu dici a me mi hanno sparato. No, no, i nemici. No, ti ha sparato Aci. No, no, no, no. Avrei voluto fare io, ma non so. Non hai sparato al tizio che è diventato sparante, sì, hai colpito la gamba di Sceo. Sì, sì. Ah, ma sì, la seconda volta. Vabbè, sti cazzi da riparare. Era già persa, ho capito. Beh, come sparare a un morto. Sì. Tecnicamente io sto pagando una gara. Però lui sta pagando le riparazioni. Sì, sì. L'altro che è mai uscito in mezzo alla piazza con 26 persone che gli sparano. Cioè, no, non è lì. Contro il tizio con la katana, che è diventato invisibile mentre gli sparavo. E Sceo ha pensato bene di andare dietro. Sì, ma la sua gamba era già... Sì, esatto, esatto. Vabbè, comunque sia, la morale che tu hai deciso di non pagare adesso le spese di questo capannone perché non te lo puoi permettere, e però l'hanno pagato loro e quindi sì, quindi la fine, però no, la sessione non finisce così da quando ho ripreso a frequentare verso il fight nel capannone. Esatto. Come entriamo per vedere com'è, quindi cioè, non c'eravamo mai stati in questo posto, ma da chi l'abbiamo affittato, scusate. Non so, l'ha affittato. Ah, no, non è un taglio rilevante. Ok, va bene. Dal professore. Non è rilevante, ok. E la prima volta che ci abbiamo messo piede dentro, belli tranquilli, tanto non ci siamo mai stati in questo posto. Beh, salute, Arston, bevi. Avezzo per... Vabbè, aspetta, magari... Avezzo, già che ti invitiamo a casa tua, però almeno... partecipa. Vabbè, finisci sto riassuntone. Il tizio che abbiamo affrontato a Marsiglia, che non si dica, c'era già di nuovo addosso. È passato molto tempo comunque, se non vi ricordo, cioè vi ricordo che siete a febbraio, marzo. Cioè, aspetta, dal momento in cui lasciamo Marsiglia al capannone, quanto tempo passa? Due o tre mesi. Perché se non sbaglio tu dissi anche... Sì, infatti loro l'hanno fatto, loro l'hanno detto, l'hanno fatto. Dimmi tu se io posso, che le idee le avevo anche dette. Puoi, ma adesso finisce. Un periodo di training. Perché il mio problema, anche perché il suo tizio che se non sbaglio come difetto aveva una testa particolarmente voluminosa, esatto, e ci ha presentato alla nostra porta e ci ha voleva per vendicarsi del fatto che lui stava per uccidere, era quasi rischiato di uccidere chi? Giulio, no? Che rischiava di ammazzare sia Giulio sia Vez. Più Vez che me, però. E lui lamentava il fatto che mi ha quasi segato un braccio. E voi gli avete fatto fare una figuraccia perché appunto sì. Quindi, già... e quindi il professore l'ha licenziato, cioè gli ha detto vattene. E lui per vendicarsi e ritornare nella grazia del professore voleva ucciderli. Noi gli abbiamo detto unisciti a noi, però abbiamo scoperto in questo modo che il professore è venuto in possesso del libro. Sì. Ed è stato ucciso o questo che c'ha? Questo qui è morto, sì. Ed ora siete nel capannone con un cadavere. L'ho ucciso io perché stava per uccidere Vezzi, mi sono lanciato. Non lo so, se non avete scritto se non avete scritto niente nella scheda, non avete niente. Sì, hanno preso le armi. Il pozzo è ancora sono aperto. Scritte nelle schede, sì. Beh, ancora lì il cadavere. Lì, ma... Ah, ecco le quote del guardaroba. 500 euro da parte di Arci, Vez, Giulio, Catta, Lase e Void. 5 per quasi 5 non sono? 5 quote? 6. 3.000 euro abbiamo. Per un totale... Ah, cioè questo è quello che avete messo insieme per avere un budget per... Sì. Okay. 3.000 euro totali. Beh, vabbè. Adesso io dove sono in tutto questo? Per i cazzi miei. Sei in un angolo. Tu ora sei per i cazzi tuoi, mi dici cosa hai fatto in quel mese. Vabbè, oltre a tornare al lavoro... Sì. Se posso ovviamente però prima hai dovuto riparare la gamba, quindi soldi dimmi le cifre perché io non vabbè, in teoria voglio tornare al lavoro e nel frattempo allenarmi calcetto, magari parallelamente a qualcuno di loro se lo fanno o meno, nel minimo le basi del corpo a corpo e continuare a tirare. Mi ha fatto un po' di box in aperta questa campagna, magari in zone di caccia, il così caffè, il rumore non... Salla, Sceo... E un minimo allenarmi, soprattutto con le armi... Cioè, a sparare e poi, vabbè, se posso un po' corpo a corpo. Cioè, tipo, magari se uno di loro lo fa, mi aggrego e faccio... Non mi ha fatto box, come arti marziali. Scusami? Io no, no. Senza armi. Non mi ha fatto, dico, senza armi bianche. Ok. A schiaffi. A schiaffoni. Io, invece, un'arma bianca, qualunque... Perché ti ricordi che adesso usare qualunque arma corpo sì, ma non ho capito dove lo fai, cosa fai. Allora, vabbè, armi da tiro posso anche organizzarmi per cercare posti isolati in cui andare. Sì, vai al poligono. Se no vado al poligono, se... va bene. Per non finire in galera dopo due giorni che spari, sì, un pacco. Questo è vero. E per quanto riguarda le armi in corpo a corpo, distinto, la prima cosa è chiedere a lui se posso farlo nella sua palestra. Siamo, se... siamo nei capannoni? No, no, vabbè, non siete nei capannoni, siete in giro. Nei mesi, di vuoto, chiamiamoli così. Magari se conosce qualcuno che mi può dare qualche lezione sulla lì, del da lui. Cioè, considerando che tu sei bravo con le armi bianche, no? In teoria sì. Allora non conosco nessuno che possa insegnare a un bravo. Ok, vabbè. Cioè, allora... dire, sono spastico, voglio imparare le basi, non so, di un'arte marziale. Mi informo un po' se c'è qualcuno che mi dà due o tre lezioncine, ma di base, poi marrà. Secondo me è più probabile che tu impari di più se fai l'autodidatta allenandoti con tipo... No, perché ha dei poteri lui, in teoria. Cioè, in teoria io prendo una qualunque arma bianca ed è come se ci fossi addestrato. Cioè, prendo un nunchaku, lo so usare. Cosa vuoi, te? Giusto, era così, no? Quindi... Perché? Ah, se no, scusa, passo indietro. Essendo già abile, io posso semplicemente andare in palestra da lui, intanto... No, al contrario, sto dicendo che deve venire in palestra da me a farlo da solo, piuttosto che avere un maestro. Sì, ha più senso. Sì, non ho bisogno di un addestramento, io voglio solo perfezionare e migliorare, quindi la pratica, sì. Esatto. Allora sì, chiedo a lui se mi presta, tra virgolette, la palestra e magari faccio un po' di peso, in senso mi tonico un po' e poi... Chi hai come contatti? Due contatti inutili, Amber e Emanuele. No, non è utile, chiedi a Ema. Per l'arma bianca, beh, per il contatto perfetto, in realtà. Beh, in realtà non lo faceva lui. Non a marzo l'anno scorso. Cioè, in realtà non lo faceva. Qualcuno di voi chiederebbe a Ema per imparare a tirare la scherma. Tipo il secondo anno lui adesso. Sì, sì, ma non è, cioè, come sì, ma dice... è scherma medievale, cos'è? Sì, vabbè, fanculo. No, poi è, no, cioè, rinascimentale, usa... probabilmente che l'ambra ti sia più utile. Sì, esatto. Okay. Forse prendere a pugni un sacco è più utile. No, vabbè, vado in palestra da lui, tanto immagino che non lo faceva in generale. No, sì, lo faceva, lo faceva. Cosa? Sì, vabbè, sì, ma... già da un anno. Cioè, mentre voi box lo fate da te? Scusa, ma hai il tuo contatto? Eh sì, quando pare in hai il suo contatto? Pare, sì. Usa il contatto Ema. Dimmelo tu se impari da Ema o da solo. No, da solo. Usa il contatto Ema, ce l'hai? Il ma non me ne faccio un cazzo di due mosse di scherma medievale. Beh, tu ti fa, ti dà un bonus se ti fa, probabilmente. Ma non, sì, vabbè. Se ti dà un malus, io eviterei. No, vado da lui, intanto che loro fanno box, io mi destreggio un po' con qualche arma bianca. Sì, tu destri da Ema di imparare? No. Sì, sincero. Io non ho bisogno. Tu andresti da Ema ad imparare? Beh, piuttosto ti che imparare da solo, sì. Ti spiego, io non devo imparare. Non devo andare da Ema, magari. Poi dopo due lezioni dirai basta, sono troppi avverbi e me ne andrei, però questo è un altro discorso. Io non devo imparare ad usare un'arma. Esatto, questo lui, già so pro, già lui è già pro. Sì, e lui è già più bravo di Ema. Lui ha il potere di armi bianche. Non va da Ema, però Ema non può portare. Lui ha la cosa della sua gente. Tu non hai la cosa della super mira. Sì, ma lui ha la cosa di armi bianche. Proprio come se ci fosse addestrato. Ah, vabbè, al posto. Io la so già usare. Adesso vuole diventare semplicemente ancora più pro. Cioè, magari mi compro due manichini. Va bene, va bene. Sceo, quanti soldi hai? 400. Nessuno. Ora non hai più niente. In questi mesi non hai guadagnato niente. Allora. È un debito di 10.000 euro. Ancora per la costruzione della gamba? No, in più. Ah, 30.000 euro. 30.000 euro di debito. Sì. Dai, vabbè, una testa. I mesi che sento una chiamata. Le già ok, quindi ho 30.000 euro di debito. E sento una chiamata da numero privato. Hai una Tesla di debito. Sceo, ti posso dire che un rene si può prendere tranquillamente intorno ai 70-80.000 euro. E... potrei fare riscuoti crediti per cosa? Per... allora il debito con chi ce l'ho? L'IVA. Posso chiedere a lui se parte del debito può essere saldato con dei favori? Non in questi mesi, perché mi hai già fatto questa roba. Se sua. In generale. Vabbè, glielo chiederai in gioco. Oh, comunque hobby internet non c'è, catta. Però c'è una roba simile. Ma devi vedere, oh, balestre. Devi vedere nella infatti ci sono un sacco di armi. Detto che facciamo sempre balestra noi pomeriggio. Io avevo pensato di prendere un arco da una balestra. Arci ce l'aveva, l'ha perso. Ma poi l'ha perso, come l'avete fatto perdere? No, gliel'ho preso io. Ah, ecco, c'è come il muro. Oh, sì, ma tu gli hai fatto 10.000 euro di debito. No, regà, non è che se io sparo al nemico il nemico si sposta, è colpa mia, cioè. Mi hai fatto dire. Ok, quindi siete lì su, nel capannone con un cadavere e lì si apre la testa enorme. Sì. E io mi sono ripreso, cioè, mi avevi detto. Sì. Il catto ce l'ha curato, vero? Non era rimasto tantissimo nel cadavere, perché era abbastanza carbonizzato. Io ringrazio Giulio perché di fatto mi ha salvato la vita. Grazie Giulio. Prego, vai. Un caldicchio. E quindi domanda. Tipo stavi sanguinando, morendo e lui ti ha guarito. No, lui si è buttato in mezzo. Sì, ma dopo stavi sanguinando, morendo. Cioè io non so se l'ho visto, credo di averlo visto però, sì. No, no forse no. No, non l'hai visto. Ah, non l'ho visto, allora non ti ringrazio, giuro perché non lo so. Grazie, gatta. Allora dico, regà, cosa è successo? Non ringrazia. Non lo so. Cosa è successo, ragazzi? Mi ha tirato, l'ultimo ricordo che ho è questa casata che mi arriva in faccia. Ovviamente col culo, eravamo in 50, me ha beccato ovviamente me. Ovviamente, domanda mia, in questi niente, mesi... Mezzo, ti ho salvato il culo. Ti ha salvato il culo? E Kata ti ha salvato la vita. Vabbè, anche Kata, perché lui ti ha curato. Ah, grazie. Ha curato grazie. Anche me che stavo per perdere un braccio. Vabbè ragazzi, grazie comunque, cioè, ti ringrazio. Ha riparato il debito dello scatolone di un po' di tempo fa. No, con gli interessi, cioè. Tu non l'hai visto, ma la scena che mi sono lanciato... di schiena sdraiato non è una cosa te oh, non è una cosa che mi sembra che tu faresti però giuro però viviamo attraverso Arch me l'ha fatta scusa guardalo è carbonizzato, è carbonizzato. La vaglia 2 no, l'ho ucciso io ah no vabbè, quello complimenti per la chiesa ti racconto veramente come è andata giuro sto cercando di bruciarti io ho lanciato il nemico nella piazza allora grazie ci sarò per sempre di tutto puoi chiedermi qualunque che io so usare tutte le armi vabbè però ti sei allenato però non ci avrei mai fatto senza se Giulio non avesse avuto quest'odio per bruciarti non avrei mai potuto lanciare grazie Giulio però dietro un po' cosa quando vuoi ci pensi e poi non dici la... ce l'hai ancora la spada la katana no la mia cioè sì la katana che abbiamo no? Sì ce l'hai però ce l'hai tu la katana io la mia non quella del tipo no però gliel'hai prestata in questi giorni in questi mesi la testa sì allora me l'hai prestata per l'addestramento così no no la, la spada non ce l'ho più perché non l'ho più trovata da quando si è svegliato dopo l'assalto metti sì katana quanto detto tre non so non l'hai detto tre sono di tre tre katane sì, ho tre katane, certo. Vai. La katana. Quindi? Dicevi, il tizio è morto cosa? No, io ho chiesto a loro cosa è successo e Arch mi ha detto che praticamente Giulio voleva bruciarmi, però lui ha spostato il tipo nella fiamma e quindi ho ragazzi. Arch è particolarmente sano e non si è fatto assolutamente niente a questo scontro. Anche perché è diventato invisibile, è scappato. No, comunque penso... Yak è con noi in questo momento? No, c'è un cadavere in mezzo a... Io solo una domanda. Ci troviamo sempre nella stessa situazione. Sono ancora costantemente in contatto con loro. Polizia, sì, ma qua non ti hanno detto un cazzo. Perché del capannone sì. Del capannone sì, ma del fatto che ci stessero andando no, perché okay. Tu lavoravi. Però è bruciacchiato. Adesso visiamo Shea, dai. Se tu Giulio lo bruciassi ancora di più potremmo farlo scomparire con delle ceneri fondamentalmente. Scusa ma non ha ancora il pozzo lui. Ci vuole parecchio per incenerire un corpo. Sì però questo non è più il capannone. Bisogna trasportare un cadavere. Basterebbe un spone di acido. Pronto? Siete ancora lì? Pronto. Aspetta, ah è vero che stavo chiamando Void. Aspetta, Casalecchio di Re. Void si chiama? Sì il nostro amico con la testa grossa è venuto aspetta. A cercarci e ha avuto la peggio so io come farlo però sparire però è stato bruciato e quindi avete bisogno di me? Antimateria ora abbiamo un corpo di cui disfarci qualche suggerimento? Io no aspetta vedo che Giulio ha un suggerimento prof. Dimmi io creo antimateria lo disintegro da quando hai antimateria? Da quando abbiamo lottato col serpentone. Ah, ottima osservazione. Esatto. Dovremmo essere a posto in questo senso, però Void c'è una cosa da valutare. Come faceva questo a sapere che già fosse ha molto più senso annichilire. No, no. Mi siete fatti seguire? Perché lasciare... Perché non lasciare tracce? Cioè, lasciamo un cadavere. Cioè, nel senso, la Marsiglia non l'abbiamo visto. Non so, l'avete incontrato voi, io non l'ho mai visto. Beh, ci hai salvato tu da lui, l'hai visto anche tu. È quello che ha fatto il buco nella macchina con cui ci ha salvato. Ah, ok, ho capito. Non si dimentica spesso testa grossa sì ma lui era in macchina non l'ha visto no però se dici chi ti ha rovinato la macchina esatto sì, lui vabbè se è morto e non avete bisogno di me io sì c'è cioè, il problema ok non abbiamo bisogno di te diretto però bisogna stare in campana cioè se lui sa che siamo qua probabilmente anche il professore come mi avevate chiesto ho cercato roba sul professore e poi vi devo dire magari una di queste sere ci vediamo e c'è ho delle novità vediamoci qua Void. Quando? Sai dove possiamo rifornirci per no, al più presto. Aspetta, raga, hai viva voce? No. Sì. Ok. Ah, sì? Al più presto. Vabbè. Tu mi aspettavi. Datemi un'ora. Che ore sono adesso? Datemi un'ora. È tipo mattina, tarda mattinata. Se no, scusa, adesso hai tempo? No. Stasera? Stasera. Va bene. Al capannone? Sì. Va bene. Ok. Hai sentito pezzo di pezzo. Ah, quelle arci. A dopo. Così che ringrazi tu Salvatore. Boh, niente. Vai. Fine della sessione, è stato bello, ragazzi. Sguappiamo il tempo fino alla sera. Fai sta magia. Ah, giusto. Io con calma, tanto abbiamo tempo, faccio antimateria finché non disintegra tutto il corpo. Quanto lo fai? Io sto ben lontano da prendermi varie radiazioni. Quanto è largo sto cono, cosa? Mi serve... No. Dov'è quello scienza... Espansione scienza in... Dossier. Forse nel cumulo di uomini. Forse nel culo di... Nel culo di tomate, ha detto. Sembra un po' volgare. Scienza e metafisica. Vabbè, mentre ci pensa, voi altri? Allora, qua non è che avessimo poi tanto da fare. Beh, faccio un giretto di ricognizione intorno al capannone per vedere se c'è qualche movimento sospetto. Esatto. Ok. Ok. Ora per essere... Ah, raga! Che vuoi, guarda. Ah, allora, cate Lille, va bene. Allora, intorno di fianco a voi c'era proprio un capannone attaccato che è un magazzino e non sembra esserci nessuno. Mm-hmm. E poi ovviamente in strada ci sono macchine eccetera, non sembra che... Ci sono macchine parcheggiate praticamente sospette. No, perché comunque c'è un via vai di gente, ma cioè vicino avete un benzinaio, avete un paio di aziende, ma nessuno ha sentito niente. Io chiamo Sceo. Comunque è una roba molto rumorosa di giorno perché è pieno di macchine e di persone che lavorano, di... E apparentemente niente. No. Che aziende ci sono? Facciamo un po' di pubblicità. Io chiamo Sceo. Beh, guardaci, Casalecchio. Guardati un po'. Funziona così: io tocco l'oggetto e il materiale scelto subisce tanti danni per round, pari ad un tiro del dado controllo per due. Ok. Tu hai attiva coso rapido? Sì. Ok. E quindi perdi solo. Quanto è largo? Non si sa. A contatto. Dopo che lo tocca perde i punti per tot round che lo tiene. Sì, ma effettivamente cosa c'è scritto? Antimateria, specifico contatto, medio. Il materiale scelto subisce tanti danni per round, fare un tiro del dado controllo per due. Vedete? In pratica lo tocco, si disintegra, devo continuare a toccarlo per farlo disintegrare. Per tot round. Ok, boh. Però sono tanti PF. Infatti. Sono una marea. Sono danni del materiale, cioè non è proprio il PF. Boh. Vabbè, perdi tipo 3-4 punti fatica. Comunque posso anche fare, cioè aspettare 3 punti fatica. Potevamo seppellire. Devo fare dei tiri. Sei con me. No, non li fai. Perché non ne vuoi. E no, cioè perché... perché ho deciso così. Perché lo sceneggiato ho deciso così. Vai. No, perché non ne fai, cioè non ti sforzi abbastanza per svenire, tutti gli altri cose sono temporanei, quindi non succede. Li tieni punti fatica perché sei stanco. Okay. Ma se avessi anche un malus, lo recupereresti nel tempo. Tanto nessuno che ha fatto il gioco ci sta seguendo, spero. Ma è anche no, più che altro perché mi prendo tutto il tempo necessario. Ce ne sei con me, però io vedo solo quelli stupidi di mie cugine. Ci sono i due di. Sì. Di e poi due. Grosso sto coso. E tutti gli altri sono i tuoi cugini. Ah, quattro mi ha fatto. Gli altri cosa dice? Bello. I due che ti ho fatto leggere che no, ci salutavano da Luca. Ma sì, ma ce ne sono sei totali. E quattro. Ok, posto. Ha notato, è giorno. Bello, cazzo. No, non me l'hai detto. Va bene, quindi chiami Sceo. Chiamo Sceo. Tu sei al lavoro e non so se rispondi al telefono. Sì, appena un minuto riesco. Ok. Cazzo di cosa? Ce l'ho sempre in tasca. E poi se vedo che mi sta chiamando Vezma. Giocata, però tu devi stare girato. Vabbè, dai, almeno mentre parlo con Vezma. Non lo so, le regole le ha fatte lui. Pronto? Oi, Vez. Come io. Ciao, Sceo, lo vuoi un prestito? Ah, no. Sì, grazie. Sceo. In questo caso comunque sì, grazie. Non rispetto il gioco. Sceo, stasera sei già impegnato? Non lo so, no. Gioca di ruolo, sei sicuramente impegnato. Sì, però o dirà di no e a 5 minuti dall'impegno. Ehi. Dipende, se mi libero, fate qualcosa stasera? Sì, ci vediamo al nuovo capannone. Oh, l'avete preso alla fine? Sì, l'abbiamo preso, però abbiamo già avuto casini. Oh. E, adesso non sto a spiegarti, però stasera ci vedevamo anche con Void che ci voleva dare delle novità su... persone di nostro interesse. Oh, ok, a che ora? E ci becchiamo alle 10, cosa ti ho detto? Alle 10 dal capannone. Vai. Però sta attento, cioè, quando vieni, vieni, cioè, state, guarda se ti seguono, perché... Okay. Dove siete? Dov'è il capannone? Ti mando l'indirizzo via WhatsApp. Ok. voi state bene, tutto a posto? Sì, siamo a posto, però vabbè, dopo ti spiego, non ti preoccupare. Dai, va bene, a dopo allora, Astassi. Grazie. Figo questo, Dan. Ovviamente non ho impegni. Altri giochi. Secondo me ha impegni. Anche secondo me. Sì, ma è molto probabile. Sceo per l'interpretazione. L'interpretazione di Sceo se pacca all'ultimo. Uno, aspetta, posso ancora paccare. Posso ancora paccare. Arce dovrebbe fare degli schizzi, ma... Sì, gli ho dato perché così ha qualcosa con cui giocare, ma non l'ha usato. No, va bene lo stesso. Dipende, che giorno è? Che giorno è? Non lo so, c'è scritto di là, non sapremo mai. Va bene. E non ho preso il mio quaderno. E... quindi, ok, fino a sera, allora, lui disintegra la roba e voi altri? Io andate all'IKEA? Diciamo. Sì. Avete fatto sta lista? No. Cazzo, ho chiesto, ok, meno ex. Sì, no, sì, aspetta, un casino. Non l'essere ricordata, ce l'ho qua. Abbiamo un budget 1.800. Vabbè, io apro chiudo parenti, io stacco alle 6, alle 6. No, lo richiamo. Tu hai detto 1.800, no, 3.000. Cazzo, un sacco di soldi. Ok, intanto non lista e tolgo 10. No, punti. Adesso te lo dico cosa prendiamo. Ci prendiamo delle panchine, un tavolo. Ma io avrei preso delle brandine. Tu sei dentro il... No, ho capito, vabbè. Aspetta, dai, da giocatore, dai. Aspetta che controlli. Aspetta, ho capito. Allora, c'è Arci, c'è Vez, c'è Giulio, c'è Catta, c'è Laz e c'è voi. Vez, è un consiglio. Però, dove dice? Spendi quasi... pagare il biglietto d'ingresso, sì. Ah, è vero. No, con cosa... no, prendiamo un tavolo, delle sedie e volete prendere delle brandine? Sì, sì. E poi degli espositori per armi, così arriviamo un tacco. Sì, come e... comunque si rispetti, spingi il bottone sotto le armi. Esce una tenda. E poi no, boh, cioè il bagno c'era già? Sì. Un fornelletto da campo, lo so. Ma ce l'avevamo visto, gli avevo mandato la cosa della cucina che potevamo. Cos'era? 1.500? No, rega, dai, cioè basta. Cioè la cucina. Ma cucina anche no, vai a pigliare dei. Vabbè, allora dimmi con quei 3.000 cosa prendi, perché un tavolo, delle sedie, c'hai ancora un po' di roba. All'IKEA, penso. Sì, però se prendiamo un tavolo d'oro massiccio e delle sedie di diamante. Eh sì, all'IKEA proprio ne trovi 12. Ma niente, per ora teniamo la cassa. Tipico di Giulio. No, prendiamo la roba, l'ha capito. Ma massimo investi. Ma l'intenzione... domanda, l'intenzione è di rimanere lì proprio a dormire fissi o ognuno poi la sera torna a casa? È semplice, no, di solito uno la sera torna a casa, però mettiamo caso che c'è una missione più lunga di 3 giorni o di un giorno. Intanto io le brandine le prenderei. Contratto della luce. Wi-Fi. Wi-Fi non c'è, la luce ci sarà per la luce c'è, l'acqua c'è, non c'è la caldaia della luce. Vabbè, teniamoci da parte per fare il Wi-Fi. Pensare al Wi-Fi, a un eventuale riscaldamento. Io qua spendo 25 al mese, sono quello. Il Wi-Fi. E luce, non lo so quanto possa spendere. È fondamentale la connessione internet in questo millennio. La luce c'è? L'acqua. No, che c'è, ok, sì, però al mese pagheremo un tot, no? Sì, ma non è compreso in questo. No, ok, posto. Dobbiamo pensare al wifi, a un eventuale riscaldamento per l'inverno, che non c'è. Vabbè, raga, ci copriamo e boh. Però è marzo, Ma compri due stufette in casa. Non è ancora tempo di pensare al riscaldamento per l'inverno. Metti vicino a te. Vabbè, fai delle brandine. Fai delle brandine. Scrivetevelo voi. No, raga, si è amplificato il capannone. Sì, ma se è amplificato comunque... Cioè, no, è se raddoppiamo. Cioè, se no, se non voglio. Ho capito, prima era una stanza con dei sacchi a pelo per risparmiare. No, prendiamo delle brandine. Io poi avrei voluto fare un salto al Decathlon e prendere tipo un sacco da box. Dei tappeti magari. E poi esatto, di quelli morbidi. Scusa, non può trasferire. Hai qualcosa tu da te da portare là? Senza sì, il discorso è che in un capannone il sacco da box, cioè o lo prendi a 60 km dal soffitto con un cavo di no, devi prendere il gancino. Cioè, il gancio al muro. Esatto. Però se il muro no, non il gancio al muro, quello per terra. La roba col coso. Ma boh, ma ci sarà un punto dove si può attaccare, no? Che è una struttura appoggiata per terra che tieni sul sacco, sì, giusto? Sì. Sono un po' fuffa però quelle. Vabbè, non è che vuoi. Cioè, per il sacco pesante fanno un po' meglio. Senza offesa. No, ok, però... userò terra. Boh, date qualche idea. Allora, allora tavolo. Sedie. Brandine. Brandine. Banzino. Tappeti. tappeti, diciamo, di base, diceva Giulio, per... sì, di quelli su cui allenarsi sopra. So che io sono fuori dal budget e tutto, ma ti ho una domanda tanti, stupidissima, sì. Ma una telecamera all'ingresso? Se no, esatto, una cosa del genere non sarebbe male. Leghiamo un telefono. Però non so quanto può costare. Una cazzo di telecamerina che ha il wifi e si guarda col cellulare. Tappeti per allenarsi è un sacco, con struttura. Quanto ci rimane? Puoi prendere anche di una squadra di legno. Una marea di roba. Chiediamo Sal, Master, con questa roba, tavolo, sedie, brandine, tappeti. Prendiamo quei tavoli e sedie di plastica tappeto tipo per allenamento, un sacco con struttura. Sono 50 euro. Dicono 3.000 euro? Sì. È 2.500. Ne abbiamo ancora? No. Ah, non spesi 2.000. Ah, ok. Quindi questi sono 500. Sì. Ok, perfetto. Poi dipende sempre quanto volete mettere di tappeti. Cioè, nel senso... D'accordo, ora vogliamo un preventivo da Liva, possiamo farcelo fare per fare una un paio di telecamere esterne. Secondo me hai due telecamere a 180 gradi, come? Un posto, di una roba del genere. Che ci controllino l'ingresso. Che registrino. Che siano direttamente collegati. No, non che registrino, cioè che si possa vedere, secondo me. No, cioè che uno poi devi guardare lì che si fanno. Ci fa la guardia. Che registrano e inviano magari al computer di qualcuno. Ma più che registrare. Non avete wifi, Wifi lo vogliamo fare, vabbè, ci facciamo, chiamiamo Fastweb e gli diciamo vogliamo il wifi. 25 euro al mese. Non lo so, vabbè. Fastweb dei campi. Vabbè, domanda mia. Vabbè, perché registrare? Whatever. Dici tu quanto spendiamo. Io la intendevo come... quando siamo dentro. Questo è fastidio, va. La possibilità di vedere fuori sì, no, dove ci affacciare, perché se arriva qualcuno ha il tempo anche se noi non siamo nel covo, se qualcuno arriva. Vai, dici di internet quanto spendiamo. Beh, non abbiamo niente nel covo, quindi è inutile anche se uno però potrebbero farci un'imboscata. Ehi, siamo tornati e sono dentro al covo. Dici tu. Ah, ok. E poi allora, quindi un sistema che registri? Non lo so, sì, cioè, che possiate anche vedere cosa succede. Vogliamo sì, qualche preventivo da parte dell'IVA. No, vedere cosa succede da remoto. Sì. Vabbè, non ce li devi dare per forza. E però intanto faccia comunque la registrazione, perché magari quel momento in cui non guardi. Cioè, secondo me, anche se non è importante, perché se registra in via è più facile da hackerare. Vai, va bene. Secondo me ha senso che non registri, ma tanto lo possiamo guardare tutti dal dispositivo. Se vuoi ci puoi pensare, poi non dircelo, no, capito? No, poi altro. Allora, se la volete la cucina... Se volete un cucinotto, vabbè, ma un coso tipo da. C'è anche Babbaro Luci. No, una cosa tipo da campamento. Da sì, campeggio. Non basta una piastra riscaldante. Cioè, al massimo ci facciamo. È un microonde. È un microonde. Un micro, sì, giusto. Microonde. Microonde è la cosa. Microonde, pa. Sarebbe anche un freghetto. Freghetto. Sì, un frigo. Frigo costa. Microonde. Microonde, frigo. Fai una piastra riscaldante. E piastra. Sono 30 euro. Sì, rimangono. Tutta roba illegale. 1000 euro. Vi rimangono 1000 euro. Sì. Questo con internet e anche la. Tutto quello che è scritto lì. E la telecamera, sì, pure. Tieni da parte per un'idea futura. No, dico io. 1000 euro possiamo tenerli. Dagli a me vado a 29.000 di debiti. No. Ok, prestami con il 10% di interesse. 1000. No, vabbè, se no tieni da parte. Se tra un attimo ci viene in mente che serve una cosa, la prendiamo. No, presta il mio scelto. Poi magari un'altra cosa che possiamo fare, ognuno di noi, se ci viene in mente qualcosa da casa da portare lì dentro, lo segniamo. Le telecamere sono solo una all'ingresso. Sulla dietro si può mettere? Dietro non c'è una entrata. Però. Cosa c'è? Solo un'entrata, le finestre? Che finestre sono? Sono delle finestre quelle alte da cosa. Cioè com'è a livello rispetto alla strada? Vuoi magari potremmo mettere dei sensori di movimento alle finestre. Cioè la strada è qua. Costano, no? Qua c'è un capannone, cioè, dipende, qua c'è la vostro e qua c'è un incrocio. Quindi il vostro capannone ha un'entrata qua e basta, avrà delle finestre. E dietro cosa c'è? Dietro non c'è un cazzo, dietro c'è... E non ci sono neanche le finestre. C'è tipo altri edifici qua dietro. E c'è, no, e c'è anche... non c'è una finestra lì dietro. Ci sono delle finestrelle qua, fai conto, ce ne sono... ce n'è una qua, poi c'è un bagno senza finestre. Ok, per... non cagate allora. Per quattro telecamere, una per lato. Una per lato ma che dà verso l'esterno. Sì. I quattro angoli. Sì. Perché sennò io ve lo facevo una qua e una all'ingresso per forza. L'ingresso. Anche una qua e una che prende dentro. Esatto. Dentro, all'interno. Sì, dentro, sì. Però senso. Quando non ci siamo, uno se guarda qualcuno dentro. Qualcuno entra, vedi cosa fa. Ah, ok, sì, però già vedo che è entrato. Già capito. Però come ha ragione lui, per un eventuale imboscato. L'ingresso, adesso che sappiamo che c'è gente che passa attraverso i muri e cazzi e mazzi. Ha ragione, è un'eventuale imboscata. Se uno entra dalla finestra così, qua, lo vedi comunque. Vabbè, come vuoi. Un'altra domanda. Questi capannoni sono vuoti, utilizzati, abbandonati? Utilizzati. Ok, quindi c'è gente intorno quando noi siamo lì dentro? Sì, non tanta gente. Cioè, non è che no, vabbè, però ci può... Cioè, se comincia a fare del casino, se ne rende. Okay. Va bene, questo, e poi prendere degli armadiettini, una roba base. E boh, dimmi tu quanto c'è. E poi dicevo, domanda, se vogliamo già farlo adesso, se può essere una buona idea da segnare in quell'elenco, se ognuno di noi ha qualcosa secondo lui di utile da portare lì. Ah, e quello ci pensiamo. Intanto facciamo così, perché così magari lui dice, ma non l'hai detto. E invece così tu dici, come io l'avevo Salla? Portato. Quella è Giulia. Dico bene. Come dice Salla? La dovevate dire prima. Interpreto troppe volte giù. No, hai capito cosa intendo? Ha senso secondo te? Ok, arriva sera. Allora, come vengo ignorato. Quindi voi state lì, comprate roba e gironzolate intorno. Allora, io ho 1000 euro di arredamento. E montiamo mobili, quindi. Io alle 6, esatto. Ragazzi, io alle 6 alle 6 stacca Sceo e vi chiama. Sì. Cosa state facendo? Come va, raga? Sono cazzi tuoi. Beh, un po'. Ti ho detto che ci vediamo alle 10, Sceo. Vabbè, avete bisogno, volete... io sono se vuoi fare un salto, sì, ci siamo, state siamo qua. Stiamo montando dei mobili, abbiamo comprato un po' degli attrezzi. E... boh. Se che nessuno li ha nominati, porto l'avvitatore. Se è Ikea, c'è il cazzino. Del... esatto. Sì, attrezzi, boh, sì, se vuoi portare Ikea, qualcosa e darci una mano, fa piacere. Volentieri. Ok, quindi li raggiungi. Sì. Verso le 8 ci viene fame. L'IVA che... no, Liva e Void poi, che arriva verso le 10. 8. Ah, 8. Quindi? Ah, sei punto. Siete già tutti? Non è poi anticipo. Void. Io vivo un paio di ore. Non è un orario. Sì, è le 10. È vero, a me l'ha detto le 10. Lui non è vero, l'altro non gli abbiamo detto niente. L'altro non l'avete chiamato. È vero, lei non c'è oggi. Quell'altro. Arriva a che giorno è? Un giovedì. Ah, no, ok. Sì, ci siamo tutti. L'As non poteva perché lavorava al bar. Che bugia, vabbè. Interpretazione di ruolo. A marzo. Perché? Vabbè. Marzo dell'anno scorso. Sì. Vabbè, comunque, ok. Balle. Boh, è vabbè, un futuro alternativo. È un futuro, bravo. Esatto. Sì. Anzi, è un passato alternativo. Passato alternativo, lui aveva ritrovato lavoro già. È andato già al piccolo, beh, ci sta, super i poteri, cazzo ne frega di cercare roba per la biotecnologia. Certo, vero. Quindi siete tutti, vedo che avete già comprato della roba. Sì, e... abbiamo messo su un po' di roba. È andato indietro nel tempo per tornare a lavorare al piccolo. Tu hai qualche idea? Abbiamo ancora un po' di budget. No, è a vostra disposizione questo posto, è anche mia, però sì. Se il piccolo vuole sponsorizzarci. No, perché il proprietario, esatto. E è lui che ci ha contattato. Dici, voi, sì. Il proprietario del piccolo. Col cadavere avete risolto? Sì. Ci ha pensato Giulio. Ok. L'ha mangiato. Cazzo, bella idea! È un po' bruciacchiato. Okay. Quando mi dico che vuoi assaggiare la carne umana, quanti mi dicono che sono pazzo? Allora, devi farlo perché non l'hai fatto. Allora, mi hanno detto che... Avete riflettuto sulla storia delle maschere? No, delle maschere di bellezza che di non girare di fare passo. Ah, è vero, ok, è vero. Questa mi manca. E sì, non l'hanno detto nel riassunto. E è un'idea interessante, loro sono molto carichi a riguardo. Cioè di camuffarci. Perché così che così capisci sulle palle. Cioè l'idea di camuffarci. Ci può stare, anche se secondo me alla fine la verità è che il professore a quanto pare sa già che siamo qua, perché se lo sapeva sto sfigato. Ma sto sfigato non lavora più col professore. Esatto. È vero, come fai a saperlo? L'averci pedinato. Come fai a saperlo, Void? Io so tutto. No, io non ho Io sono il professore. No, allora, ho fatto delle ricerche come avete chiesto sul professore. Cos'è quella goccina di sudore, Void? Non sai? È come avete chiesto, ho fatto ricerche sul professore e... so quindi che lui ha il libro e so che lo sta usando per intracciare la pietra che gli serve. E hai visto il suo spostamento? So che adesso il anche professore, la sua base operativa, in realtà c'è, mi dicono che ci sia solo lui e qualche agente e un traduttore per il libro ed è nello stesso posto dove siamo stati l'altra volta. la stessa base, sì. A Firenze. Vicino a Firenze. Quello che mi rischiano di morire tutti. Esatto. So che è lì con alcuni soldati, alcuni mercenari e appunto un traduttore per il libro. Potrebbe essere interessante andare lì. Ho perso un attimo. Quindi sono un po'. Due, potrebbe essere interessante andare lì se a me sembra una buona idea, però poi valutate voi. E se andare lì ora, visto che sono in pochi, sappiamo che c'è il professore e quindi potremmo colpirlo. E sappiamo che c'è il libro. In pochi quanti soldati hai detto? Non l'ho detto. No, ho capito. Il concetto di pochi, sotto 10, più di 10. Penso sia massimo una decina. Quello che mi preoccupa è che però, in teoria, il professore adesso dovrebbe avere la pietra del cartomante. Non è in grado di usarla? O... No, in realtà sta cercando. Non lo so se ha la pietra del cartomante. Il cartomante però è morto. Però non so se lui ha la pietra del professore. Sì, ma non è che si è presentato lì e l'ha ucciso. Sai cosa è successo con la sua? Non so cosa è successo, però non, il professore non è mai uscito dall'Italia, quindi sicuramente non è arrivato in Francia. Per cui secondo me ha ingaggiato qualcuno per uccidere il cartomante. Sono pistacchi. Potrebbe avere la pietra del cartomante, ma a lui serve quell'altra, perché è quell'altra che emana radiazione. Se mi ricordo bene, quella del cartomante permetteva tipo di sapere il futuro, quindi di fatto... No, questo ve lo siete sempre inventato voi. Ah sì? E che cosa faceva invece? Non lo so, Void, sì, cioè è una bella occasione, però eviterei di andare a farci distruggere come l'altra volta. Sì, però cioè io ve l'ho detto perché secondo me è una buona occasione. Una buona idea. No, quello sì, cioè cerchiamo di avere un piano è buona, più è l'equipaggiamento che noi siamo sempre in modalità cerchiamo di avere un... Non sono però militari, sono mercenari, sono dei volontari che lui ha arruolato tra Heroes. Quindi altri fanatici. Ma secondo te sono fanatici, ma non militari, sono altri Heroes. Secondo te il professore potrebbe andarsene a breve? E sai quanto sono esperti? Più che andarsene potrebbe andare a cercare la pietra a breve. E sai quanto sono esperti questi? Non solo andarsene, ma anche andare in una certo. Questi Heroes da quando sono Heroes? Non è vero. Non sai se sono esperti o meno. No. Il fatto è che giustamente quello che ha appena detto, noi dovremmo intercettare il prima possibile prima che arrivi a trovare poi la pietra se non ce l'ha ancora. Esatto. Dente d'orco. Capito, vezzo. Ogni cosa rega, in ogni caso. Sì, no, ma ci sta di andare lì, sono il primo a dire, l'unica cosa, volevo evitare di andare là. Io farei, se siete d'accordo, propongo di, tipo un paio di giorni, stare qui. Lui starà lì fino a quando? Ragionarci e partire tutti insieme. Quando ha tradotto il libro. E tu saresti disposto a venire con noi? Sono una decina di Heroes, hai detto. Almeno una decina, però non credo siano lì. Ma il professore, quello che non ho ancora capito, è il professore ha dei poteri? E che io sappia no. Tu lo conosci bene. Sei sicuro che lui sia voglia? Io ho lavorato col professore per un po' di tempo, ma non l'ho mai visto. Sì, non so mai che magari è un altro. Sicuro che abbiamo non l'hai mai visto di persona. Io non ho mai visto. Non sai come è fatto. No, io so come è fatto. Noi lo sappiamo però. So come è fatto perché ho visto quello che voi avete visto il professore. Interessante. Poi non sappiamo nulla di lui. Beh, avete visto. Sì, no, che a parte che così. Cioè, effettivamente abbiamo scoperto che sparando gli muore, questa è una cosa positiva. Io credo non è così scontato in questa volta. L'occasione sia da cogliere al volo prima che il professore se ne vada da lì, ma soprattutto vada a recuperare la pietra che eventualmente... La base è la stessa di cui avevamo le paglie. Ma se noi avessimo bisogno di qualche equipaggiamento particolare... La base è la stessa di cui avevamo le paglie. Più che altro anche di uomini. Ho capito cosa dici tu. In realtà. Dove potremmo travestirci per andare lì come mercenari? No, io direi di andare proprio lì, visto che conoscete già la zona, entrare e... Yak. No, però come aspetta, parlate una volta che sennò no, io parlavo con lui, tranquillo. Lo so, ma però se no è in casino, sì, esatto. No, cioè tu ci dicevi la cosa del travestimento perché potremmo andare lì travestiti per dire che siamo dei mercenari. Io non direi così, io direi travestirvi in futuro da qua in futuro per evitare che dica guarda, è quello lì, so che vive lì e so che il suo capannone è lì. Vabbè, e ci sta. Cioè tipo nel tragitto da qui a casa mi camuffo così nessuno vede che sono io che entro in questo capannone. Tipo in macchina camuffato. il concetto però in è realtà sono gli occhialoni col esatto. No, stavo dicendo col mio amico spesso abusiamo. No, aspetta, com'è? Spesso abusiamo dei nostri amici. No, questo suona malissimo. Meno grazie, spesso abusati amici. No, spesso abusiamo degli amici. Nel senso... Spesso abusati amici. Sì, no, però lui ci dice, grazie, spesso abusati amici. Spesso abusiamo nel sonno degli amici. Credo che credo che l'occasione sia raccogliere al volo. Aspetta, scusa, ti stavo togliendo un punto per l'interpretazione sbagliata. Dovresti dire un altro. Un altro, sì. Vabbè, l'occasione sembra ovviamente da cogliere al volo. Ovviamente non voglio che andiamo impreparati come l'altra volta. Se tu sei disposto ad aiutarci a venire con noi, organizzare una sorta di piano insieme, si può fare. E se posso aggiungerei, perché non contattare anche altri due che conosciamo bene che potrebbero aiutarci, se non tre? Yak, il maestro, Laz. Yak, Laz e Ema, io avevo pensato. Troppa gente da gestire, per sé. Vabbè, comunque, se loro sono... Se loro sono... Ema. Sì, riordiniamo se loro sono tra... Organizziamo tutta la squadra. Cioè, calcola che là dentro, in quell'edificio, saranno dalle 10 alle 15 persone, per stare larghi. Ok, dentro l'edificio compreso professore. Secondo me dovrebbero essere una decina, potrebbero anche essere meno. Vabbè, mettiamo una dozzina di persone, ci sono là dentro. Per essere meno, una dozzina. Mettiamo 80.000. No, metti 10 persone, comunque, okay. Essere in 5, essere in 7, essere in 8 fa differenza. Sì. No, ma io sono d'accordo, cioè è meglio esserci tutti. E poi soprattutto Ema ha poteri che potrebbero aiutarci molto, secondo me. Sono poteri particolari che noi non abbiamo, solo lui. Cioè, oggettivamente quindi potrebbe essere d'aiuto, ma anche solo come palo, nel senso avere comunque persone. Vabbè, no, aspetta, che cosa fai? Parla nella mente. Se non manipolava no. Com'era? Ah, parlava solo nella testa, sì. È vero. Ah, no. Okay. Stavo pensando che cazzo serve. Vediamo se riescono a raggiungerci adesso. Io chiamo Ema. Non mi risponde. Vabbè, chiamo Yak. E dimmi, ciao grande, dimmi cosa c'è. Sì, ma lui viene a piedi, mezzo. Oh, Yak, stasera cosa fai? Ah, guarda, stasera mi è arrivato un gioco nuovo che aspettavo dal 2010. Non è che riesci a, cioè, ti passiamo a prendere, ti riesci a fare un salto? No, vi raggiungo io, tranquillo. Siamo casalecchio, però. Ok, a che ora? Adesso riesci a uscire adesso? No, ragazzi, cosa, scusa? Sono adesso io. Sono neanche le 5. Siamo passati dalle 6. Siamo alle 5 e mezza, ragazzi. Ciao, Arci. Ciao, Arci. Piace. Miro, se l'avete perso. Sarai degnamente grazie per il disegno. Da Yak. Grazie per i disegni. Esatto. Devo fare i disegni, non ti scatta niente. No, ho detto prendo lo sketchbook per far giocare Arci. Ok, grazie. Oh, ciao Arci, un bambino speciale che ho disegnato. Ci vediamo, è stato un piacere. Forse. Lo zaino è tuo, però? Sì, no, sono qua ancora io. Perché hai fatto lo zaino? Ma domanda è nel messaggio. No, Vabbè, tranquillo, non devi giocare con gli altri. Okay. Ah, lasciamo qua allora. Nel messaggio. In gioco, nel messaggio della chat di gruppo, chi c'è? Solo noi, abbiamo aggiunto anche gli altri. Ci sono anch'io. Ci sei anche tu, questo è vero ed è molto divertente. Va bene, voi, allora mettiamoci d'accordo. Cioè, Yak non c'è perché. Ah, no, Yak no. No, però ah, io vai no, l'altro, scusa, Vez, dicevi, Vezzina? E noi siamo grandissimo. No, vabbè, facciamo una cosa allora. Lasciamo stare, scusa se ti ho chiamato. Quindi a Casalecchio a che ora? Prima possibile. Okay. Io vengo a piedi, Vez, va bene, verso un paio d'ore. Mezzanotte. Mezzanotte e mezza. Se, vabbè, facciamo una cosa, Yak, facciamo così, ci vediamo magari tutti domani. Domani sera poi. Così puoi giocare al tuo gioco. Oggi ci vediamo domani sera. Domani sera va bene, verso le 11 e mezza, non solito. Sì, va bene. Mezzanotte. Va bene. Calma. Va bene. Dov'è il posto, scusa? E vabbè, ti passiamo a prendere noi, non ti preoccupare, ci sentiamo domani. Ti mando la posizione. Grazie, non avrei mai chiesto. Però. Vabbè, te lo chiedo io, per piacere. Ok. Grazie, riferimento a cose fatte. Grazie per la disponibilità. Poi faccio poi scrivo tipo Ema domani sera. Poi bla bla bla. Scrivo sia la Ema se domani sera possono. Ok, Laz ti risponde domani sera lavoro. Ah, adesso hai detto che lavora. Quindi... Vabbè, magari domani non lavorava. E invece. Dice, vabbè, ci possiamo magari beccare prima pranzo che ti dico una cosa. Va bene. Ema? Ema non ti risponde. Okay. Quindi, vabbè, voi domani vediamo chi c'è e organizziamo il piano. Sì, quindi domani. E faccio punto sì con gli altri. Va bene. Vabbè, sì, devo venire anch'io domani. Sì, se organizziamo il piano, hai da fare? No, però vabbè, insomma, non avevo voglia. Va bene, ah, okay. Possiamo vederci anche da te, no, se bene, vuoi. Va bene, da me. Comunque sì. Va bene, a domani. Vediamoci da te, voi, almeno sospetto. Ciao. E se ne va. Vabbè, giorno dopo io parlo. Ema ti risponde adesso alle 3 e ti scrive: oh, questo grande. È dei team con Ema e Yak anche. No, che sì, è l'Avengers dei poveri. Esatto, esatto. Ragazzini, ciao Arci. Stasera io sono a una festa, però se siete in centro sul tardi... Strano. Siete in centro sul tardi, tipo tardi, tipo orario Vez, potrei passare solo tardi. Se Salla non va a letto a lui. Salla mi sa che va alle 2, va a letto. Domani devi tu sei ubriaco, no? Come sempre. Cioè, come sempre adesso, non è proprio. Cioè, raga, io ho visto il video mentre eravate in macchina che andavate a Lucca, le facce erano una roba devastata. Poi non ciao, non scemo. So. Ciao. Immagino ci uscirò, vediamo. Però mi sa che oggi non faccio chiusura piccolo, l'ho fatto per le ultime 2 settimane. Ma adesso mi riscrivo. Sentiamo. Ciao. Ciao. Sollino, tu quando che parti? Domani. Allora se non ci vediamo stasera, cioè, il 19 sì, o il 18 o il 17. Sì. In bocca al lupo. Grazie. Ciao. Bella rega. Ciao. Marci. E dicevo che Ema risponde: guarda bello, io in questi giorni non riesco neanche a uscire di casa. Non ho il tempo per cagare, devo preparare questa cosa qua. E poi te ne parlo con calma, però è un audio ovviamente. Sì, sì, beh, è ovvio, neanche da dire. Però grazie, scusami tanto, purtroppo. Appena mi manda sto audio lo chiamo. Io non rispondo. Sei pronto? Ciao Ema, ascolta, facevo prima a chiamarti. E comunque hai fatto scusa se non ti ho risposto subito. Sì, sì, no, ma tranquillo, non ti preoccupare. E no, l'unica cosa è che è una roba, cioè, un po' grossa, nel senso che è una cosa che ci riguarda. Sì, bravo, è una cosa un po' grossa. Infatti in questi giorni sto preparando appunto questo progetto qui, nuovo. È abbastanza grosso. No, ma ci sta, infatti io sono felice per te. Però è una cosa che ci riguarda, cioè, riguardano tutti noi per le nostre, diciamo, un po'... Tu Ema ce l'hai tra i contatti? Gli avevi già chiesto un favore? No, non ce l'ho tra i contatti. Ah, allora tira. Però ce l'ho io, non so se la cosa può spalleggiare. Dove potrebbe venire? Tira su sociale. Non sono bravo. Non sei più bravo. No, non sono bravo. Una volta. Guarda che ha scritto il peso, che carino. Sì, ha scritto il peso con l'asterisco, tipo... In cavi. Esatto. Crisi. Allora, sociale, un D6. Sociale, un D6, sì. 6. 6. Va bene, allora... Il cervello di Ema funziona diversamente, quindi vale come un 1. Domani sera, hai detto. Sì, cioè dobbiamo organizzare sta cosa, se ci fossi anche tu sarebbe... Vengo a fare un salto, poi verso le 3 vado a casa. Che sì, ma tranquillo, ci vediamo verso mezzanotte. Facciamo una roba così se hai qualcosa da fare prima. Dove? Non pare. Possiamo organizzarci per andarli insieme, praticamente a Casalecchio. Va bene. Dai, ci organizziamo poi. Ok, bella. Dai, magari con anch'io facciamo il viaggio insieme. Sì. Ok, magari già in quindi, giorno dopo. L'Asi gli dico quella roba lì e gli chiedo se lui vuole partecipare. Voi? Gente? Ci siamo. Sì. Giorno dopo, pranzo. L'Asi gli dico, guarda, se ci mettiamo un po' in privato, gli dico, guarda, L'Asi... Privato, siete voi due. Appunto, se sono in mezzo alla gente che ci posso sentire. Ok. E dico, guarda, il nostro amico Void ha delle notizie, ha avuto delle news importanti su colui che ci sta creando problemi e avremmo l'occasione di fare una missione grossa a breve. Quando? Prima possibile, i prossimi giorni. Tu quando è che hai? Va bene, ditemelo e vedo di tenermi libero. Va bene, dai, ti diamo tutti i dettagli. No? Ti scrivo quando abbiamo fatto. Ti sentiamo domani. Dai. Ok, arriva sera. Immagino che prendiate Yak e andate al capannone. Sì, siamo tutti tranne Laz. Siete tutti tranne Laz e Ema che arriva. Ah, ok. Sì. No, viene con me. Ah, viene con te. Abbiamo, ci avessi d'accordo, ah, per okay. andare a mezzanotte. Sì. Vabbè, vabbè, a mezzanotte abbondante. Vabbè. Ok, quindi siete tutti. La peggiore persona di Ema. Nel... siete tutti lì al capannone. Giusto. Sì, sì. Riga, ma che cos'è questo posto strano? Giocare a un gioco solo per prendere per caso. Oh, l'hai messo dentro tu, cazzo. No, faccio notare che sono scemo, che hai detto io per me faccio tutto la squadrone. Squadrone, chi parla? Allora ragazzi, come forse ho accennato alcuni di voi, a te no Yak, però adesso senti anche tu. Mi è andato. Pieno. No. Anche Ema in realtà non so niente. Ema no, gli ho spiegato un po'. Sì. Ah no, sì, ho detto una roba grossa. Sì, vabbè, per convincere. Vabbè ragazzi, comunque il discorso è questo. Il Void ha delle notizie importanti sul professore. E a quanto pare si trova ora a Firenze, che sta cercando di far tradurre il libro, però non ha una scorta particolarmente grossa, solo dei mercenari che sono degli altri heroes come noi, forse una decina secondo quello che sa Void, forse. Ma poi non c'è, sappiamo quindi. Sì, c'è. Non sappiamo quanto esperti siano, però l'occasione è abbastanza ghiotta. E per cui l'idea è di quella di fare un piano stasera e poi di muoverci nei prossimi uno o due giorni. Faccio una domanda a Void. Sai chi è l'interprete? Si sa che è l'identità dell'interprete? No. C'è modo di arrivare a scoprirlo indagando un po'? No, perché sta lì, vive lì. Ah, ok, vive lì. Ok. No, perché magari riuscivamo a... Tutti vivono lì. Anche i mercenari. Non lo so se i mercenari stanno lì o girano oppure... Perché un'alternativa potrebbe essere prendere uno di loro e farci dare più informazioni possibili. Potrebbe essere un'alternativa. Prendere uno di loro? Se tornano a casa la sera a dormire, intercettarlo e... Ma chi? Se i mercenari tornano a casa... Allora saranno lì? Dice che non lo sa, potrebbe essere che alcuni tornino a casa. Lì hanno un piede di stanze, saranno lì. Allora stanno lì, basta. È isolato quel posto. Mm-hmm. Il problema è se vogliamo, cioè vogliamo andare lì alla brutta, eccetera, che mezzi abbiamo per farlo. Non allora, tanti... l'altra volta ci siamo scervellati ore per siamo un piano ed è stato un mezzo fallimento. Di... Quindi, non lo so. Allora, ok, l'altra volta abbiamo utilizzato anche un po' di tecnologie droni per sapere com'è il posto. Ora abbiamo il vantaggio di conoscerlo già. Il posto lo conosciamo. Ok. Sono pochi, quindi possiamo intuire che... in che stanze siano e dove si concentrino le maggiori guardie, a parte qualcuna di ronda all'esterno, giusto? Non occuperanno tutto l'edificio, ok? Immagino. Saranno concentrati tipo nelle stanze centrali, più sotto e buona. Oddio, immagino. Sì, non è detto, però sì. Beh, non occuperanno tutto l'edificio, essendo in pochi, quello intendevo. Il problema è che, cioè, noi cosa, l'obiettivo di questa retata che cosa sarebbe? Ucciderli tutti. Perché se noi partiamo con l'obiettivo di ucciderli tutti, allora si può andare ad armi spianate. Ma è questo l'obiettivo? Io penso che l'obiettivo perché sia o uccidere il professore siamo... o comunque privarli del libro. Il discorso è che siamo in tanti, quindi una cosa stealth è molto difficile. Onestamente. Aspetta, questo è Ema che parla. Ma quindi quando vorreste fare sta cosa? E nei prossimi giorni? Io nei prossimi giorni non posso. E Void ci deve dire quanto può durare questa cosa e quando la dobbiamo fare. È il più presto possibile. Ma se io lo prendo da parte, provo a convincerlo a venire, essendo un mio contatto. Bravo. Se ne frega, un po', non può. Ma non ha senso i contatti in questo gioco. No, è che l'hai già usato. Io? Ho usato il contatto Ema? Io ho usato il contatto Ema? Mai. Non ho mai usato i contatti. Gli hai mai fatto un favore di ricambio? Hai mai fatto un... ha usato Ema? Quando l'ha usato? Non mi ricordo. Secondo me non l'ha mai usato. Dici? Te lo dico io. Vabbè. Io ho usato Yak una volta. Ah, però non era Yak, è l'atto pratico. Quindi come se l'avessi usato. Ma Yak ormai... No, sì, l'hai usato per convincere. Ma non era lui. Quando è che non era lui? Non era lui, però. Quando? È stato quando organizzavamo il primo attacco là, però non era lui. No, era quando organizzavate, non quando siete partiti. Quando organizzavamo, può essere che fosse ancora lui. Ah, oddio, di no, ma non era lui. Esatto. Perché lui era prigioniero. Ah, giusto, era già esatto. Dai, chi se ne frega. Quindi non l'ho usato. Era. No. Vabbè, tornando a noi, dobbiamo decidere... Hai qualche potere per noi? Beh sì, lui ce li ha di natura, ce li ha normalmente. Vabbè, dobbiamo decidere che cosa voglia... cioè l'obiettivo di questo di questa retata. Se vogliamo veramente sterminare tutti... Void, cosa dici? Qual è la domanda? Cioè, secondo te andiamo lì per uccidere il professore? Sì. Sembra la cosa più sensata. Sì. Però vuol dire uccidere tutti, nel senso che tutti si frapporranno fra noi e il professore, quelli che ci sono ovviamente. Quello in ogni caso, qualunque cosa se, se preferite... A meno che tu non voglia entrare e dire, ci uniamo al professore. Se, senso, se preferite non uccidere gli altri non è un problema, il professore andrebbe neutralizzato in un modo. Sì, la mia domanda era, vogliamo, cioè tipo... sfondare l'ingresso e sparare a tutti, vogliamo cercare di ragionare con un piano più dettagliato. Diciamo che secondo me non sarebbe male fare un diversivo e provare con una squadra fa un diversivo, okay. E l'altra entra squadre. Dall'altro lato. Il problema è sapere un po' di più. Idea. Ok, questo può essere sapere un po' di più, dico, cioè sapete già tutta l'area. Sì, il problema è quella roba lì è elettrificata, giusto? La rete, ci sono telecamere ovunque. Vabbè, ma siete già entrati una volta. Siamo entrati dall'albero, però... La rete elettrificata c'è modo di neutralizzarla. Puoi mettere anche verticale. No, siete entrati... Sì, no. Siete entrati... Con un caos sopra, leggere, sospeso. Esatto. Pazzire, c'è modo di neutralizzare la rete elettrificata. Sono anche noi poteri qua. Nel senso tagliare la corrente. Sì, c'è modo, no, tagliare la corrente no perché il generatore è denso, il modo migliore è tagliare la rete, tagliare il canale recinto. Ma se è elettrificata? Vabbè, ho capito, tagliatelo con sì, qualcosa di isolante. Sì, si può fare, farlo. Però richiede tempo e un po' di rumore. C'è una parte che non era, che effettivamente non c'erano le telecamere fuori, adesso che ci penso. Non c'erano le telecamere fuori. Non c'erano le telecamere fuori, però fanno la ronda loro. No. È vero? Non lo so, c'erano delle guardie che facevano la ronda. Era l'ingresso. Ah, era solo una all'ingresso. Esattamente. Ah, allora, tipo nel retro del recinto, chiamiamolo così, si può provare a fare un buco. Come certo. Si disponevano prima, magari. Esatto. Allora, secondo, io farei una squadra in cui ci sono la Zema, che il professore di fatto non conosce come suoi antagonisti. Ema non può. Ah, cazzo. Ma che tipo di diversivo volevi fare? Tipo un rumore, tipo una cosa così, o semplicemente no. Qualcuno che arriva e gli secondo parla. Me se ci poteva stare, se tipo è Laz, che tipo dice, ehi, ho saputo che qui ha ruolato degli Heroes, AD. Non ha ruolato degli Heroes. Quando è alla fine... No, non è una buona idea, non ha ruolato degli Heroes lì dentro. Cioè, sono solo questi volontari già scelti. E se Laz apparisse tipo come cacciatore di Heroes con tipo qualcuno di noi semi-prigioniero per consegnarlo al professore? Non è quello il punto in cui si... Non è questo il punto. Cioè, loro cioè sono... non puoi entrare lì e dire consegno prigionieri a gente che... E loro... Posso, ci sono... Puoi arrivare lì e dire so che qua è l'organizzazione del professore. Calcola... Aspetta, ha ragione un attimo. O... gli fai credere di avere informazioni su cosa il professore no, sta cercando. A quanto pare aspetta, nessuno può sapere aspetta, nulla. Fammi parlare. Non è una buona idea. Fammi parlare. Esatto, cioè nel senso aspetta, non è... Ragione un attimo. Il professore ha dato ordine alle guardie di non fare entrare nessuno e lui è impegnato a fare cosa? A tradurre il libro e a informarsi sulla pietra. Quindi l'unico modo, l'unico aggancio che abbiamo, l'unico appiglio è fare finta di avere informazioni riguardo a queste due cose. No, non può, cioè, beh, a quanto pare non può funzionare. Aspetta, non può funzionare dipende, se tu fingi che quell'edificio sì. Serva a ruolare qualcuno. Se tu vai lì dicendo guarda che so che stai cercando di tradurre il libro, io so qualcosa riguardo alla pietra. Non è una buona idea. Vabbè, e qualunque cosa diciamo tu dici non è una buona idea o non è una buona idea perché sembrerebbe di sì. Non è una buona idea perché questo è Void che ve lo dice, non è una buona idea perché lì non è che cercano informazioni del libro ed è una cosa famosa, è una cosa top secret fatta apposta. In cui effettivamente c'è addirittura il professore, quindi non è una buona idea arrivare lì e dire stiamo cercando, abbiamo contatti per... Perché okay, loro non è previsto che tu sappia che... Loro hanno qualcuno che gli va... Era proprio lì. Domanda, sì, voi. Ma loro... Prendergli alla sprovvista del tipo guarda che io so cosa state facendo qui e ti posso aiutare. Era proprio quello. Ok, l'idea. A quel punto loro però ti incarcerano e ti portano da un'altra parte. Facciamo una roba più semplice, Void. Ti catturano e ti portano via. Void. Cioè il fatto è che... Dimmi. Void. Ho una domanda. Quella base, cioè... Raga, io non sto capendo un cazzo. Adesso arriviamo, Jack, non ti preoccupare. E... non ti preoccupare. Voi, ascolta, la base lì comunque non sarà del tutto isolata, cioè ogni tanto ci dovrà andare qualcuno a, boh, non dico pulire, però portargli della roba, qualche cosa. Sì, da mangiare, però. Ah, dà una cazzata così. Se noi, tipo, neutralizzassimo, senza ucciderli, quelli che li vanno a portare, sì, e ci sostituiamo a loro, almeno un gruppo, potrebbero inserirsi così. Beh, questo si tipo, può fare, lo potrebbe se... fare l'AS e lo potrebbe fare... Catta, puoi prendere le forme di qualcuno? Sì, sì, ma mi sembra una roba troppo a lungo termine. Cioè, perché a lungo termine? Perché dobbiamo studiare quando questo, arriva esatto, a portare la dovremmo roba. Dovremmo studiare i movimenti per 2-3 giorni. Tu non sai nulla. Andare lì e farlo, non andare lì a aspettare. Mm-mm. Cioè noi dobbiamo fare una cosa immediata, effettivamente. Allora andiamo lì, cominciamo a sparare, a urlare, vediamo cosa succede. No, è che no, abbiamo il vantaggio che loro non sanno che noi stiamo arrivando e abbiamo il vantaggio di conoscere la zona. Cioè, tu non sai se c'è qualcuno che si reca da loro. Lo so, cioè, non lo so, ci sarà sicuramente. L'alternativa. Devo stare lì a raccogliere informazioni. Io ci ho messo 2 settimane per avere queste informazioni. Da chi? No, beh, non c'era da dire. Quale tipo di diversivo potrebbe spostare le guardie dalle loro postazioni? Uno che va lì e fa casino a quel punto. Se deve essere una roba così super base, è così molto semplice, uno va lì. Ovviamente ci si apposta e ricomincia a cercare una alla volta. Il potere che, allora, il potere che abbiamo, lavoriamo sui poteri che abbiamo a questo punto. E io posso fare gente, possiamo andare in 800 e dire wow, uccideteci! Oppure, ma regà, non ho capito bene cosa vogliamo fare. Non ha detto una brutta idea, però andare aspetta. Dal professore e uccidere il professore. Ma dov'è il professore? È a Firenze. Dove mi hanno incarcerato? Sì. Tu puoi modificare la voce. Potrei portarvi puoi alle celle. Copiare la voce di qualcuno. Tu se puoi noi riuscissimo a neutralizzare no, una fare guardia, il suo rubargli terreno, la radio. Con lui. Lo può fare e in cuffia a tutti dire che è successa una cosa lì. Così aspetta che Iac ci risolve la vita. E sì, tu ci puoi portare dentro così. Io so dove sono le celle. Puoi arrivare tu dentro. Come funziona? Sì, sono lui però. Tutti insieme? Sì. Tutti insieme dentro lì. Siamo già dentro. Sì. Allora, nelle celle però. Stiamo aspettando, facciamolo adesso. Questo era il potere del suo esatto, quello che è quello che infatti gli ho detto io. No raga, lo faccio io. Il suo tizio lo faceva lui in teoria lo sappiamo. E di nuovo di nuovo non lo so come possiamo scoprire. C'è un modo per scoprire se è lui? A chi lo stai chiedendo? A me? A te come basta. Cioè, fagli una domanda. Scusa, tu da quanti anni lo puoi conosci? Fare un tiro di fagli mente una domanda, per vedere se è no. sincero, se gli stai chiedendo qualcosa. Sì. Fagli una domanda, però. Un tiro di sociale. Una domanda dell'infanzia. Un tiro di sociale per capire se è lui davvero. Ma in che modo vuoi fare? Fagli una domanda di un aneddoto vostro delle superiori. Come era vestito il primo giorno? No, vabbè, una cosa che può sapere, che sapete solo voi e che un esterno non sa. Una roba anche banale, cioè. E oddio, allora... Tipo che voto hai preso in quella vabbè, regà, allora sono una mio roba del genere. No, vabbè. Cioè, non so. No, Iac ci sta. Hai letto quello che tu hai scritto su WhatsApp? Che? No, vabbè, fino a questa cosa. La babbo. No, è che lui era tipo uguale quando faceva così. E quindi faccio fatica. Cioè, tipo, per quel che sappiamo, il tizio lì può prendergli anche ricordi. Beh, oddio. Quindi, non lo sappiamo. Ma, no, gli chiedo quando ha preso questo potere, intanto. E riga, non so, boh, un mese fa, 2 mesi fa. Come l'hai scoperto? Mi hanno fatto arrabbiare a casa e io sono andato via. Mi sono ritrovato da sotto sotto a casaletto, in un camerino di prova. Cazzo è? È il negozio che vende vestiti. Posso fare un tiro sociale su questa roba qua? Sì. Ma da solo ti sei teletrasportato? Uno. Ti sembra sincero? Boh, vabbè, a me sembra sincero, ragazzi. Facciamoci portare dentro. E dall'altra volta. E perché se no, vabbè, io lo dico perché mi era venuta come idea. L'alternativa era se riusciamo a neutralizzare una guardia, lui ruba l'auricolare e può copiare la voce della guardia. Perfetto, era il piano della prima volta, quando vi hanno sparato tutti. Davvero? Sì, più o meno sì. Boh, se lui ci può portare dentro, tu ci potrai portare dentro e ci potrei portare anche fuori. Alle celle e far uscire, sì. Allora, di cosa stiamo parlando? Possiamo farlo l'unica anche cosa è decidere però anche dove apparire. Però, rega, non è che mi viene sempre, cioè io ci provo, però cioè adesso non è che... Dobbiamo farla arrabbiare, forse. Non ci ritroviamo al negozio di vestiti. Oh, Jacopo, un babbo come te. Allora andiamo subito! Sempre a giudicare, cazzo. L'unica cosa però è che dobbiamo decidere dove farci apparire. Dalle celle. Allora, cioè, dove è stato? Poi solo lì? Sì. All'interno. All'interno di una cella. All'interno di una cella. Che potrebbe essere chiusa. Sì, però... sì. Dobbiamo trovare un modo per aprire. Beh, oddio, cella. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Se è vuota è logico che sia aperta. Che se so, non c'è la vuota. Io chiusa. Posso anche passare attraverso un muro. Sì, sì. Cioè, buco il muro, però... Void vi dice che però non è, da quello che sa non stanno usando le celle. Comunque era una chiusura chiave, sì. Analogica, non digitale. Esatto, ah, allora va bene. Io farei così, raga, a questo punto facciamo quanto così. Sono grandi le celle? Perché cominciamo a essere in tanti, tipo piccolina, però vabbè. Se non abbiamo piani da strutturare, perché tu mi dici che non abbiamo tempo. Perché tu mi dici che non abbiamo tempo e altro, Void mi sembra questa. No, non è che non abbiamo tempo, però aspetta. L'occasione mi sembra troppo buona. Aspetta, aspetta, aspetta, allora facciamo caso, così, vabbè, ragioniamo prima sul minimo come andarci, cioè che come equipaggiamento. Calma. Adesso andiamo a casa, prendiamo tutto l'equipaggiamento esatto, che abbiamo, calma. Che in realtà l'avremo qua a guardaroba, perché qua te lo teniamo. Esatto, però ragioniamoci. Cioè, ognuno dica, cioè, nel senso, facciamo il punto della rega, io sono armato, dalla prima sessione sono armato con un taser, ed è quello che ho. Viene, non è sempre, non è che il potere mi, cioè, ci ho provato 3 volte in tutta la mia vita. Vabbè, allora se sapete farlo meglio voi, non vi do. No, no, quindi aspetta. Fare una prova. No, ma innanzitutto dobbiamo riposarci prima un pochino. Sì, sì, andiamo tipo domani, dopodomani. Già, non hai capito. È passato un giorno? Ha capito, io ho 3 di psiche. Beh, tecnicamente. Ah, cioè, giusto, io ho recuperato 3 di psiche. Nel senso, abbiamo appena fatto uno scontro e siamo quasi tutti, io e te siamo quasi morti e quindi sì, sì. Cioè, abbiamo bisogno di riposo. Ma io credo che sei a posto. Quanto okay, io no. Quanto ti servirebbe? Se devi farti curare, ti puoi far curare da cat. Ma all'atto pratico tu non è che esatto, cioè al massimo sei un po' schizzato, tipo. So che sono a posto. Sì, però se il giorno dopo però mi alzo, so che non sono ancora a posto. Ah, sì. Però la non sai quanto tempo. Però so sei. Che altre volte abbiamo combattuto ci abbiamo messo un po' per recuperare completamente. Io non so quanto, però so che la psiche. Vabbè, oggi facciamo finta che è giovedì, ci mettiamo d'accordo, possiamo farlo di martedì. Allora sono full. Una settimana. Secondo me tra una settimana il rischio è che il professore sia già andato via, però. Il problema è quello. No, raga, bisogna fare adesso. Meno tempo perdiamo per sta roba. Tu Giulio rimani indietro, si senti un po' più stanco. Cioè, però. Sono d'accordo con te che dovremmo riposare. Visto che sappiamo dov'è, a quanto pare sappiamo come entrare, io lo farei anche stasera. O lo facciamo oggi con Ema o domani con Lars. Almeno un'altra giornata di riposo ci può stare. Non abbiamo Ema, ma Lars. Non abbiamo Ema, ma Lars domani. Beh, cambia poco. Ora c'è Ema, domani non c'è. Va bene, dai, una notte vabbè, prendiamo. No, io mi do supporto da retrovia. Va bene. Come volete voi. Meno, ovviamente, prima si fa meglio. Direi di farlo domani. Domani? Va bene. Decidiamo l'orario. Cioè, perché non mi sento nelle condizioni di andare in prima linea. A che ora vogliamo farlo? Io sfruttiamo il buio. Vabbè, che si entra direttamente dentro, è vero? Non cambia un cazzo. La notte, magari già dormono, però. La notte, non beh, avranno i turni. Non ti fatica. Ma alcuni dormiranno, però. Sì, però i mercenari hanno i turni, quindi... Sì, però magari qualcuno dormirà, sì, magari a luna sono tutti svegli. Sì, chi fa il turno di notte dorme di giorno e viceversa, quindi cambia poco. Ah, se sai tutte le informazioni, daccele tu, lo lascio. È logico, se uno fa il turno di notte, di giorno dorme e viceversa. Ho capito, cioè non lo che sappiamo. Il numero di guardie non cambia, questo sto dicendo. Non sai. Però la notte poi... Magari di notte sono 3 guardie, di giorno sì, ce ne sì, sono... Va bene, ma... O magari di notte ce ne sono 20 e di giorno non ce n'è nessuna. Quindi sai. Domani alle? Se vuoi lo sa, o sa facciamo? Facciamo a mezzanotte? No, no, facciamo a mezzanotte? Non lo so. Quante persone per dare un'ora c'erano in questo posto? Una decina. Ok, ragazzi, l'unica cosa da ricordarci è Yak è il nostro unico modo per tornare. Quindi stiamo lì vicino e proteggiamolo. Sì. Direi di non dividerci mai. Anche se farà ridere questa sorta di comitiva che si muove in gruppo. E Yak? Questo tuo potere, perché funzioni, dobbiamo essere a contatto con te, dobbiamo toccarti. No, raga, io faccio un portale e ci entro dentro. Ok, e noi possiamo seguirti. Vaffanculo. E noi ti seguiamo. Se siete veloci, sì. No, qualcuno rimarrà indietro. Sì. Fisso. Aveva già capito che Lazar rimarrà indietro, fidati. Guarda, ci stringo la mano su questo. Vabbè, Si chiede cosa sta? No, dimmi. Direi che domani ce la prendiamo di riposo e partiamo a mezzanotte. Questo potere che... Ah, ste regole, non sono importanti le regole, è importante la narrazione. Abbiamo capito per capire come poter... qui dice antimateria, controllare. Cioè, prenderei il potere, potere io. Potrei prendere il potere secondario, controllare. Come dominio ho sia antimateria che fuoco. Quindi. Qui antimateriale fa DX, il materiale scelto quando colpito viene annichilito subendo i danni appropriati raddoppiati una volta per ogni più 3 la difficoltà base per colpire. Quindi la difficoltà di farlo è quella, semplicemente quella di colpire, e poi se aumento di 3 la difficoltà... Direi, Vez, che il piano sarà sempre lo stesso, appariamo in una cella. Entriamo e spariamo. No, tu fai andare un clone a controllare. Antimateria. Cacchio, biologia controllare. Oppure potremmo di nuovo spegnere la luce, però uscire dalla sala server stavolta. Raddoppiate una volta... Per ogni più 3 la difficoltà base per colpire. È che se è buio per l'ora, buio anche per un massimo, non credo. No, però una cosa. Sì, va bene. Potremmo nella giornata di domani, di riposo, cercare ulteriore equipaggiamento se qualcuno ne necessita. Tipo tu, anche solo la mazza da baseball che hai a casa, portatela. In teoria. Sì, va bene. Hai capito? Cioè, anche solo. Comunque, devo giocare contro degli hero stavolta, quindi si gioca a poteri. Sì, certo. Però avere una mazza in mano. Di pistole e io. Domanda: è possibile un silenziatore? Se lo compri, sì. E quanto costa? Per uno che ha zero. Per uno che ha meno 30.000. Dipende da chi lo compri. Il più scrauso di tutti? Dove pensi di comprare un silenziatore? Non ne ho idea. Al poligono mi informo. Dall'IVA. Dall'IVA. Non lo so. Non è legale. IVA, però. No, l'IVA, non lo so. L'IVA, sì. Hai troppo debito perché io ti di altre attrezzature. Vabbè, chiedo... Vabbè, quanto costa? Non so quanto costa. Non ne ho idea. C'è nel manuale nuovo? Dai, via. Detector di movimento completo bellico, estintore, drone militare da ricognizione. Sai quanto costava? 10.000. No, ma non era militare da ricognizione. Silenziatore, no. Drone personale però costava 500. $200. Beh, non è tantissimo. Ragazzi, anabolizzanti. No, scusa. Adesso un sacco di cose fighe, c'è la camera per bari. Ah, è già diverso. Quindi €400. Ok. Vabbè. Vi può interessare fare un investimento sul gruppo? €4.000. Ragazzi, vi può interessare fare un investimento a favore del gruppo? Cosa ci serve un silenziatore in questo caso specifico? Tu sai cosa dovresti fare? Visto che la katana che hai non è affilata, dovresti chiedere non è affilata? Ecco, a 10 no. Ah, non dovresti chiedere a loro se ti danno una katana che hanno rubato al tipo. Ah, allora sì, pensavo fosse affilato. Ti do quella bruciata. L'altra voglio io. L'ho ucciso io. Decido io. E quindi è bruciata, cosa comporta? Non lo so. Il manico rovinato, bruciacchiato. Vabbè, uguale. No, ma tu hai un fucile? Uno a tenere. Ma tu cos'hai, un fucile? Io ho una pistola, normalissima. Almeno. Così, cazzo. L'arco ce l'ho ancora, però. No. Perché? Boh. In base a cosa, boh? E non hai più equipaggiamento perché hai perso tutto. Se te lo sei portato a Marsiglia. Perché tu a Marsiglia sei tornato con Ambra, poi Ambra ti ha rapito con tutte le tue soldi, giusto, cioè tutte le tue gambe. Ambra non ho capito se era Ambra o no. Quindi no, non è che la pistola. Quindi Ambra non è. Non è neanche la pistola, no, la pistola assolutamente no. E quindi io che cazzo di allenamento ho fatto finora? Vabbè, al poligono te la danno. Al poligono te la danno se affitti. Però sono senza. Sì. Ok, raga, io so sparare benissimo, ma non ho una pistola. Katta conosce uno che è pieno di armi. Sì, vabbè, scrivi una katana normale per me. Ah, ok. E la gomma? Avete una gomma? Sì. Grazie. E... Vabbè, fate i vostri conti di equipaggiamento, segnatevi il segnabile e poi, insomma, ci... cominciamo. Qualcuno riesce a guardare al volo quanti danni fa una katana? Se no vedremo. Credo 4. E... No, 4. No, vabbè. Non so, tu Katta, in modo di procurarti un'arma? Non ho soldi. Tu hai per caso un altro modo di procurarti un'arma, visto che eri pieno di pistole? Tanto non passato. Può comprarla perché non ha un certo danno. 3 di 4. Chiediamo all'IVA. Sì, ora me lo ricordo. L'IVA mi risponde che ho troppo debito. Giustamente, 30.000 euro. Sei con me. No, tipo il tuo suocero non ha 70 armi da fuoco. Non ha un'armeria. No, cos'era? Catta vende armi. Esatto. Non lo so, se abbiamo una qualunque arma a distanza nell'equipaggiamento di gruppo, non so cosa abbiamo recuperato. Non lo so, in generale. Raga, scrivetevi l'equipaggiamento di due portate. Urne, due puntafrecce, sacchetto monete d'oro, gemma. Cos'è un puntafrecce? Piccola, due punte dei frecci. Ah, ok. Macchina fotografica, imbracature, caschetti, materiale da scalata, torce, vestiti. Sì. Vabbè, devi guardare, Arci ce l'ha 12 pistole, mi sembra. Arci no, forse sì, perché ha rubato al poliziotto la fucile. Roba. Arci ha un passamontagna, un binocolo, due. Un fucile d'assalto, no, un kit di pronto soccorso, un giubbotto antiproiettile. Ragazzi vostri. Arci non c'è. Manganello, torcia, arco e shuriken. Che ha la pistola? Io ce l'avevo, ma l'ho perso. Cioè, ma lui aveva preso la pistola del fucile e pistola, no? Come il carico cosa, però non ce l'ha, come non ce l'ha. Non lo vedo. È che non ha segnato neanche il fucile. Ma il fucile non ce l'ha. Ah, vabbè, no. Usiamo. Quanto vuole l'IVA per un paio di pistole? O un fucile? Il vostro gruppo ha un debito enorme con me. Vi ho fatto il preventivo perché so che potevate pagare. No, quelle te le paghiamo subito. Me le pagate subito? Se costa, se ce la possiamo permettere, te le paghiamo subito. Pistole. O fucile. Dici quanto posso costare. Qua c'è la scritta. Passa la gomma. È roba illegale. Una pistola cattiva costa 300 euro. Una balestra o un arco? Questo tipo di arma è solitamente utilizzata nei mattatoi. Intanto una pistola collegata a un compresso. Quanto costa una balestra? Perché a me interesserebbe. Vi faccio 700 euro a pistola. E una balestra? Con i colpi. Con il budget del coso possiamo permetterci una pistola. Con una balestra la faccio a 500 euro. Cioè, spendiamo anche la balestra, invece di 700 paghiamo 500. No. Quindi sarebbe 1200. La balestra. Cosa? Perché costa meno. Due pistole, sì, 1200. No, 1400. Oh, abbiamo 1000 euro. Volevamo comprare una pistola? Fucile? Che fucile? Boh, dacci qualche... C'è il discorso fucile, pompa, che pensavo io. Carabina. Quello che costa meno? 1500 euro. Il discorso Vez che dicevo io, che tu hai detto dobbiamo giocarci alla poteri contro poteri, è vero, però il tuo non fa danni. Aspetta, il suo non fa danni, il suo non fa danni, capito? Era quello. Sei tu che vuoi la pistola? No, sto facendo un discorso di gruppo, non parlo solo della pistola, anche solo che tu abbia una mazza in mano o meno. No, ma anch'io la prendo. Hai capito? Cioè, anche solo che tu abbia una mazza da baseball in mano. E io ci avrò la mia cazzo di mazza da baseball, chissà quanto cambierà. Va bene, sì, ce l'ho la mia mazza da baseball. Vuoi la mia mazza da baseball? Tieni. Capito, stiamo andando per uccidere delle persione senza armi. È quello che sto dicendo. Cio. Come le uccidiamo? Sì. Con lo sguardo. Tu hai dei soldi? No. A posto. Abbiamo già risolto il problema. Cioè, coltellate da cucina. No, qualcuno di voi comunque aveva delle armi, raga. Tutte le volte uscite che siete tiri bardati di armi. Di solito io è Arci. Solo il mio cellulare. Di solito è Arci che tira fuori. 26 armi. Quando siamo andati in Francia non ce le potevamo neanche portare dietro. E dove ce le hai? Ah, perché quando passi il confine prendi un mezzo e ti controllano. Ma sei tornato in Italia? Siamo tornati in Italia? Sì. Sono stati qui, siamo. No, mi ricordo che erano andate tipo perdute... Sì. Da qualche parte, secondo me uno di noi con una pistola ce l'aveva. Non l'ha usata. Arci doveva avere quella rubata dal tipo da poliziotto. Ne avevamo prese alcune nel parcheggio quando abbiamo fatto il primo scontro. Allora, l'unica pistola ce l'ha Yak in un portale in Francia, che è la pistola di un poliziotto francese. No, sì. Ma quando abbiamo fatto lo scontro, sì. Quando abbiamo fatto lo scontro fuori dalla caverna, abbiamo preso pistola di suicidio. No, perché sei in macchina. No, l'abbiamo presa, io ho sparato con delle pistole. È vero. Le avete segnate? No. E allora non ce l'avete. Cazzo, sparate sempre con 26 pistole, non ce l'avete segnate. Una volta ho sparato con una pistola. Quello che avete segnato è vostro, se no. C'è una pistola, ve lo dice Yak, rega, se volete io ho la pistola che mi avevate dato, quella Arca gli Shuriken, che è però in Francia. Non lo può accedere qui. È come se ci fosse un'altra piccola dimensione. Ah, c'è un distintivo con dentro la pistola. Chi deve essere in Francia? Deve essere dove l'ha creata. Ah, è tipo una versione. Almeno, però riforniamoci di armi bianche. È un, sì, cioè lui crea una nuova. Almeno che una abbiamo un'arma bianca a testa. Capito? Sì, però è in cui è, capito? Almeno un'arma bianca a testa, quelle si possono trovare. Già, almeno. Almeno quello. Banale, però almeno quello sì, almeno c'è. Ok, arriva il giorno dopo. Aspetta, gli prendiamo una pistola. A Sceo. Prendi la specie da 600 per pistola. Allora, io posso andare anche di katana, io ce l'ho la. Segna che il tuo debito ora è pistola, così almeno fa qualcosa. Ma la katana? Io ho la katana, il corpo a corpo ci so andare, io sono a posto. Hai rotto il cazzo, finora che volevi il cazzo di cannone e adesso il cazzo di cannone. Ma che problemi hai? E non lo so, stai rompendo le palle, voglio armati. Non hai soldi, cioè. Capito? Non sto parlando di me, io parlavo di gruppo, ho chiesto a lui che tipo di armi ci poteva dare, con che budget. Non ho detto voglio una pistola, questo l'hai inventato tu. Vuoi la pistola? Eri rincoglionito. Non voglio niente, regalo la katana a Vez e vado disarmato. Io guarda, ti non lo odio in gioco. Guarda, cioè, veramente una roba pazzesca. Guarda che la pistola la stiamo comprando per te. No, la katana la do ad Arci. Sì, non ce l'ho. Vado disarmato, modello. Guarda che la stiamo comprando per te. Ragazzi. Non l'ho chiesta. Non la voglio. Hai detto dobbiamo andarli armati. Ci sta, tu hai la mira. No, va bene. Però, nel senso, nessuno di noi ce l'ha. No, bene, allora, voi dice, regà, non è il momento di litigare. Cioè, io ho venduto la katana lì. Ma quanto mi dà? È abbastanza. Bruciacchiata è mia. Mi dà un cazzo e di Giulio. Andiamo avanti. E non è il momento di litigare. È una missione importante. Le armi che abbiamo di sicuro sono due katane. Io l'ho venduta la mia. Ma chi l'hai venduta? A Liva. Non ne hai una. Sei da Liva. Non ne hai una tua. Non ne hai una tua. Ma non è tua, è di Io l'ho venduta, l'ho regalata. Ok, sei sono disarmato. L'hai ridata a Giulio. Va bene, Sceo. Vuoi una pistola che ti apprestiamo a sparare? Va bene, sono un deficiente e tutto. Ho una pistola che... È inutile, non ho i soldi. Ma passiamo tutte le crepate. Il riga è una pazzia litigare. Aspetta, io parlavo di gruppo, magari prendere... Hai ragione tu tutta la linea. Ma non voglio avere ragione, che non capisco perché mi metti in bocca parlare che la pistola. La pistola, se la compriamo, la usi tu? È ovvio, ma non ha senso spendere tutto il budget per un'arma. Cerchiamone una che costi meno e che possiamo permetterci tutti. La pistola che ci costa meno... Ma che non sia una pistola, anche delle armi bianche. Hai capito? Volete comprare la balestra? Ma non possiamo prendere delle armi bianche? Che magari costano meno e ce la possiamo permetterne 5 e le prendiamo tutti? Ok, che arma bianca vuoi? Non lo so, non so che cosa ha a disposizione lì. Noi ce l'abbiamo le armi bianche. Non è che non le abbiamo. Arcia o Arcia o manganello. Merlin, prendi 5 maceti. Compri l'arma bianca l'abbiamo. Io ho la mazza da baseball. Arcia al manganello. Arcia al dei maceti, delle robe così. Arcia al manganello. No, ma quelle ce le abbiamo, cioè il manganello ce l'ha. Un manganello fa meno danni di un macete comprato alle Leroy Merlin, come dice lui. Quello sto dicendo, armiamoci di cose un minimo che per fanno carità, danni. È tutta roba che comunque a distanza non ci puoi andare. Sì, ce l'abbiamo. Ho capito, però almeno abbiamo qualcosa in mano. Ma per me va bene, per me va bene, io tanto non la uso. Cosa vuol dire io non la uso? Se ti picchiano cosa fai? Li guardi e soffri? Regà, non è il momento per litigare, allora ci vediamo domani a che ora? Io ho la mazza da baseball e il tesoro, ho sempre avuto quello. Domani a che ora? Gli altri no, ma io ve le do ora anche un cellulare e basta che mi date con deficienza. A che ora domani? Mancherà di notte, partiamo? Abbiamo detto a mezzanotte quelle affari. Mezzanotte, va bene, ci vediamo domani. E cosa se ne va? Okay. Nel frattempo vado. Decidiamo, rega. Quindi andiamo vabbè, come volete. Qui non abbiamo preso niente alla fine. Ok. Riga, io vi sto chiedendo, non mi cagate, mi trattate solo come una merda. Dei macelli. Mi sembra stupido. Basta, stanno parlando loro, basta. No, perché non si capisce un cazzo. Sta parlando Katta di vuol comprare della roba il giorno dopo. Smettete di litigare, piccioncini. Non è litigare, vai. Vabbè, fate quel cazzo che vi fa. Se anche lui vuole venire a cercare dei coltelli, accetti, macete. Io ce l'ho dei coltelli. Okay. Ma avete qualcosa, mi sa. Io ho coltelli, non ho specificato quanti, però almeno tre ne avevo. Ok, di un metallo buono, quindi non una merdina qualsiasi. Potete comprare una motosega. Beh, in realtà sì. Silenziosa, in realtà, sì. Allora, di coltellacci, a parte che c'è, volendo, anche un'accetta di quelle da pescaiolo. Un'accetta, sì. Ah, buona, fatta molto bene. Costa sui 50 euro. Ok, visto questo mi intendevo. E... molto meno avere un'arma a testa. Ma quelle, ripeto, volendo le abbiamo. Poi basta, se volete un coltellaccio grande, anche quello sui 40-30 euro, come preferite voi. Ok. Considerate che adesso, non in termini di gioco, però vabbè, in gioco, l'ascia vi sembra che faccia più male. più grossa, cioè più peso. Esatto. Boh, a quanto pare sul catalogo di Leroy Merlin non puoi ordinare maceti. Non chi l'avrei mai detto. No, maceti no, ma coltellaccione sì. Secondo me è meglio la katana o una di queste cose. La katana. Non lo so, visto che no, perché è rovinata. Sì, però è meglio la katana. Cioè, su quelle cose lì, rega, le abbiamo, senza stare a spendere. Ah, Katana vuoi una asciuttona da boscaiolo. Sì, vai, togliti 50 e metti. Okay. Ok, volendo ci sono anche robe migliori, però questa è la più base che trovi. Fa un di 12 di danno. Di danno da taglio. E mazzette invece? Mazzette inteso... Aspetta. Esatto, no, tipo martelli da muratori. Quanto costa? Martelli ci sono, sì. Mazze pesanti in quel senso. Sì. L'IVA ce l'ha per caso le vesti tattiche? Tipo quelle da... Se potete pagare, sì. Cosa sono le vesti tattiche? Quelle della polizia... antisommossa sì, o colpi speciali se potete pagare sì non so quando questa tipo perché sì. È imbottita così è imbottita è diciamo 500 euro di coso più guanti e paragomiti e stemmate. Vabbè, vai in un negozio di skateboard e compri due gomitiere dai. Stessa cosa. Non è uguale. 500 euro fatta bene, eccetera. Volendo solo il casco. Vabbè, c'è anche lo scudo volendo. Solo il casco? Solo il casco costa. Aspetta, piano. Lo scudo però? No, 500 è tanto. Volendo c'è anche quello d'antisommossa. Quello che ho detto io è tattico militare. Quello invece è antisommossa, dice Giulio. Tipo accelere. Esatto, 80 euro al pezzo. Cioè al giubbotto. Giubbotto. È un giubbotto antiproiettile. No, è molto meno di un giubbotto antiproiettile. È meno, però è imbottito. Se ti accoltellano ti protegge. Lo scudo? Ti sparano, te lo prendi tutto. Lo scudo che è per il casco? Scudo antisommossa costa 200 euro. Minchia. Il casco non c'è? Però lo scudo antisommossa già se ti sparano comunque è molto attutito il colpo. Il casco costa una cinquantina. Ma quindi c'è un tipo un kit complessivo? Aspetta, forse nel completo antisommossa c'è anche il test. Possiamo prendere dei completi antisommossa? Vediamo se riusciamo a prendere. No, non c'è il casco. Non c'è il casco? No, non c'è scritto. E un casco normale quanto costa? Da moto. Non so, dipenderà un po'. Sì. E cosa ti dà in più a livello di gioco? Armatura. Colpisce in testa e armatura. Potremmo prendere tutti però i completi. Però casco da moto, se cioè a meno che non sia integrale. Se e quello lì non c'è? Lì non c'è la mentalità. Cioè, sono mossa, non qualità. Cioè, il metto militare. 80 euro. Ok. 200 euro, però è quello grosso. Cioè, quello che se ti spara in testa in teoria non ti fa niente. Nel metto militare 200 euro e il coso costava 80, mi dicevi. Però non è militare, è quello antisommossa dei poliziotti. Sì, non c'è il casco dei poliziotti, dicevi? No, c'è tipo c'è il casco normale, sì, quello... Tipo da moto, praticamente. Tipo da moto. Costerebbe 50 euro. 50 euro, 60, dipende dal modello. Se facessi, quindi, giubbotto più quello, avrei 250, spenderei. E completo antisommossa più quello, perché 250? No, voglio 80 volevo. Più 50, 130. Ah, sì. Ok. 130. 130 casco e cosa? Dobbiamo prenderci. Cioè, scusa, il completo cosa comprende? Solo pantaloni e giubbotto? No, è solo giubbotto. Ah, solo. Sì. Quindi ti protegge il petto, cioè, non le gambe, non le braccia. No. E per proteggere quelle invece? Devi prendere delle imbottiture. Ah, perché lo chiamano completo se non è completo? Cioè, per imbottirsi tutti costa 500 invece? No, imbottirsi tutti non esiste. Cioè, devi comprare diversi cosi, però. Riesci a farci tu un coso complessivo? Sì, sono 20 euro a pezzo. Ma volendo puoi fare anche il completo antisommossa con appunto gomitiere, ginocchiere, guanti, eccetera. Ogni locazione 80 euro. Forza. Sì. Quindi... Sei 40. Però tutte proteggono. Comunque. Cioè, per intenderci, ci sono 8 locazioni, dovrei fare 80 per 8. Sì, no, vi dico, non è tanta armatura, è un po' di armatura, ma non tanto. Cioè, se vi sparano... No, beh, in realtà... Beh, sono 6 locazioni. Sono 8 locazioni. Ah sì, sono 6 perché il busto vale come 2, 3, 4. Quindi 6 per 8. Come volete. Basta che euro, però andiamo avanti perché sennò non ci muoviamo più. Boh, dammi il giubbotto più casco. Togliti i cosi e mettete 130. 130? No, aspetta. A 130, ok, oppure spendi 160 il casco più figo. Va bene. Cos'è il casco più figo? È che ti dà armatura 60 invece che 20, come quello da moto. Però 1080. Quindi tolgo 160. Se lo volete, sì. Se volete. Guardi me, io non ho soldi. Se lo volete, se lo presti. Si chiama complessa di sommossa, e però cioè, nel senso che non te li ridarò mai. Probabilmente. Non credo. Se non sbaglio. Sì, protezione. Esatto, devi scriverlo sotto. C'hai un senti che c'hai un debito con me di ed è busto e testa. Che non ti ridarò mai, però. E quanto beh, me li puoi ridare, 60. Tipo 10 al mese. Finiti i 30.000. E io adesso tutto quello che incasso lo do lì. 10 euro li dai a me. Lo stuccino. Allora 320 spendo 7. Li ho presi anch'io, non solo braccia e gambe. Li ho presi anch'io. Però aspetta, piano, sono 60, ma la durezza non è altissima, quindi se ti sparano te li pigli. Sì, buone, sì. Va bene, abbiamo se preso. Se ti danno una botta, magari viene ridotto. Ce l'ho anch'io, Sallino. Va bene. Li ha prestati vecchi. Segnatevelo sulla scheda, perché se non ve lo segnate. Cosa... come lo segno? Sulle locazioni che hai, ah, puoi mettere sotto protezione. Ah, ok. Esatto. Allora, puoi scrivere vabbè, torso e testa. Protezione 60. Torso e testa, esatto. Protezione 60. Tutte e due. Aspetta, sì. Come si chiama questo giubbotto antisommossa? Completo antisommossa. Cioè, come funziona? Se mi fanno 60 danni è partito, se me ne fanno, cioè, si aggiungono ai PF, diciamo, della locazione. Se no, se sono danni da botta, li para e basta, se sono danni diversi dipende dal tipo. Non è proiettile, soltanto. Scusami, ripetimi, c'è qua, cosa c'è? Protezione, detto 60? Sì. Totale 60, metto? Esatto. Va bene, direi che se non abbiamo altre... Allora, vuol dire che attutisce 60 di quei danni no. Lì? No. Allora, il completo antisommossa attutisce 10 danni per ogni botta, tipo di corpo a corpo e roba del genere, e non viene intaccato. Se invece prende dei danni da taglio, da fuoco, da pistola, eccetera, perde i punti ferita. Vabbè, quando verrò colpito, okay. Eventualmente me lo spieghi. Cioè, se mi danno una manganellata, per intenderci, io perdo i miei TF ridotti di 10. Di 10 e basta, non succede niente. Allora. Se invece prendi un altro tipo di danno, viene intaccata la tua roba. E quindi solo perde... nell'equipaggiamento o anche sì, TF? No, dipende dal tipo di danno. Okay. Cioè, se mi sparano... Se si rompe, si rompe sia il giubbotto sia la tua però. Esatto non... sia il tuo busto si sparano una tira, però ecco se ti prendono a pugni la cosa conviene. Ok, vai, andiamo così allora. Ok, quindi siamo al giorno dopo, ci siamo, quindi giorno seguente la katana domanda il fodero, però non scusate, sono mosso. Okay. Posso riuscire a farmelo io in qualche modo legato sulla schiena? Devi comprare. Non riesco a farmi io una, semplicemente un qualcosa che la lego lì e sì, con un laccio. Voglio anche lo scudo antisommossa. Poi una volta sfilata non riesco più a rinfilarlo, ok? Sì. Però è giusto per noi. Voglio anche lo scudo antisommossa. O se no, se no banale. Ma forse allora ti conviene cambiare tipo di... Tipo scudatore. Sì, ma forse allora ti conviene cambiare tipo di vestito, non lo so. Vai, andiamo. Perché è impegnativo da girare con... Però sì, se lo so. Spero si dico tanto. Ah, lo scudo antisommossa costa un bel po', costa 200. Quanto pesa? Pesa in gombro 2. Mi piace proprio un po'. Che schifo, cosa? La Coca Zero. Ma mi piace. Mi piace molto sapore in bocca. Allora, lo scudo... È più amaro. Lo scudo ti dà... Cioè, ti fornisce protezione nel braccio in cui lo indossi. Perché non è lo zucchero. E puoi usarlo per parare, ovviamente. Puoi usare un'azione per difenderti. Cioè, invece che usare l'azione, tu dici mi difendo e quindi metti dietro lo scudo e lo blocchi. E, beh, per questo caso che tu vuoi stare nelle tue. No, scusa, colpisce il braccio più altre tre locazioni perché è enorme, è grosso. E questo ti para 130 danni. Dopo cioè, di, a 130 però. Di armatura. Non metto il braccio sinistro. Che quello Gigio. Cioè, in realtà a me non serve troppo. Però ai miei cloni in realtà si potrebbe servire. Però ecco, se invece che quello prende un giubbotto antiproiettile, no, costa di più. Beh, se vuoi, puoi prendere lo scudo e appena lo crei glielo passi. Il fatto è che lo scudo non può servire, che mi posso mettere no, fa parte di equipaggiamento. Quanto costa lo scudo? 200. Cioè, nel senso, se tu. Cioè, non posso permettere. Aspetta, ho già comprato a Sceo il coso. Aspetta, il tuo doppione ha il tuo equipaggiamento. Sai cosa? Uguale. Forse a Sceo gli dovevamo comprare. A Yak dovevamo comprarglielo. Ma Yak starà dietro, te lo dico già. Scusa una cosa, ma. Cioè, il tuo clone avrà anche l'equipaggiamento identico? Proprio. Ah, ok, quindi casco ha già tutto. Sì, c'è cioè il vestiario, sì, quindi casco e il clone. Ah, ok, ah, pensavo non avesse le cose. Non penso alle armi. No, quello no, ancora no. Ci siamo? Quindi fate lo scudo, sì, non verso mezzanotte. Soldi. Sì, direi più o meno. Insomma. Ok. Chi c'è? Vai, siete tu, cioè voi quattro, Laz. Con le katane. Scusa, di sono Yak e Void. Ok, non c'è proprio. Cosa c'ha? Date qualche arma a Sceo. Io ho la katana. Te la sei ripresa, ma esatto, dai, rega, ok, rega, allora andiamo lì, andiamo. Vado, Io ho la mazza da baseball, il tesa e i miei coltelli. Vado, Vuoi la mazza da baseball? E no, non guarda. Succede niente. Rega, non so come è possibile. Dai, Yak, cazzo, cioè ti puoi permettere una giacca di Armani da 700.000 euro e non riesci a fare un portale. Vabbè, rega, non è che adesso si può. Dobbiamo farlo arrabbiare, secondo me. Farlo arrabbiare, sì. Vabbè, rega, sono inutili, basta. Ma Yak, che cazzo dici così? Cioè, che senso ha? Tira sul sociale. Come è da farlo arrabbiare davvero? 5. Sì. Vabbè, Vezzi, che cazzo ne so? E si apre il portale. Si apre il portale. Un portale altezza uomo, più o meno. Dentro è nero, non vedete niente. Vediamo. Ok. Entrate. E finite tutti strizziti, no, è nero, non puoi fare luce dentro, tipo Ricchi e Morti, sì. Okay. Effettivamente nessuno ha pensato a uscire tutti strizziti, ce l'abbiamo. In una piccolissima cella chiusa, buia. Vabbè, però vediamo, tasto per trovare la porta. Prima posso fare un ascoltare? Se vuoi sì. Domanda, dall'esperienza precedente, le porte avevano uno spioncino da poter aprire? Sì, avevano uno spioncino che si apre dall'esterno. Non senti niente. Sento Sceo che parla. Però esatto, sentite un buon casino. Cioè, con la porta. Ok, avete la cella in cui sento alcuni casino. Di voi siete... Sì, senti casino di loro che parlano. E il portale si richiude dietro di voi e rimanete in questa cella piccolissima, quindi siete un po' sovraffollati e... Uno scudo di San Martino. Siete già stati in questa cella. Vi ricordate che lo spioncino si apre da fuori, quindi probabilmente in questo momento è chiuso. Vabbè, io accenderò la luce del cellulare. Ok, c'è una porta e un lettino di fianco a voi e basta. Va bene, rega, io potrei anche aspettarvi qui. Sì, intanto proviamo a uscire, magari. E... Giulio, Catta, muovi per tu. La porta è aperta, si apre quando provi a aprire. Fuoco! No, avrei fatto antimateria. Ok, io consiglierei di mandare avanti qualcuno che se muore non fa niente. C'è il corridoietto, non c'è nessuno. Tipo un clone. C'è il corridoietto, non c'è nessuno. In fondo c'è una porta. Ah, c'erano anche tutte le telecamere. C'è la luce qui? C'è un po' di luce? No, è spenta la luce. Tutto buio. In fondo c'è la porta dove abbia spento la luce l'altra volta. C'è la porta. Ah, no, c'è il corridoio. Ok, sì. Yak, tu... Per ora seguici, stai dietro, stai tranquillo, però seguici. Comunque. Devi stare vicino a noi perché sei l'unico modo di tornare indietro. Va bene, rega. Grazie, Yak, grazie, bello. Ok, ci disponiamo in un determinato modo. Ti bussa davanti, io posso fare il clone. Vuoi già cominciare a modificare. Ditemi voi. Potevo farli mentre eravamo tutti schiacciati. Quanto durano adesso? In realtà potrei scatenare il coso e farli durare un migliaio di anni. No, vabbè, di me normalmente potrei usare il potere di una testesa ancora di più. Sono loro che aprono la porta tutti. Almeno non sono più nudi, però. Durano 6 minuti adesso. Sì, sei a meno minuti. Che io non alzi ancora la posta. No, vabbè, 6 minuti è già buono. No, 6 minuti è già buono. Boom. Ora durano un'ora. Se vuoi. Come vuoi. Devo prendere un duratestesa più estesa, quindi spendo 15. No, però nominale. Quindi spendo 14, vabbè ci penso, intanto faccio due cloni. Ok, quindi direi che se sei d'accordo stanno davanti. Gli mando a esplorare più che altro. Beh, in fondo al corridoio dalla porta ci arriviamo tutti insieme. Allora, arrivate alla porta lì, aprite la porta. Ok. è aperta. Ok, guardate magari qualcosa. Sì, vabbè, non so se ci. E vedete che è tutto buio, ma c'è una luce che esce dalla sala comando che vi ricordate. Okay. Mentre è ancora buio nell'altra sala. In tutto il resto è chiusa, qua la porta è chiusa. Scusa. Allora, c'è sempre l'opzione di togliere la luce. Chiusa nel senso chiusa chiave, bisogna scoprire. C'è sempre l'opzione di togliere la luce, eh? Mi sembra già al buio. No, sì, noi, ma non loro. Però creare una rissa nel buio non è la cosa più geniale di questo mondo. Tu che l'hai già esplorato, tra virgolette, non proprio in maniera comoda. Cioè tu sei, se ricordo bene, scusa, lui è l'unico che ha fatto, che è stato in questa parte dell'edificio, no? No, la carta è stata qua. La porta media, la media dentro. Questo qua. Esatto. Ah, sempre nel laboratorio, sì. Lì. Che è quello con i computer. Da qui c'era l'entrata qua. No. Sono, comunque ci sono quattro persone sopra, al piano di sopra. Questo è Void che parla. Sì. E... Ah, è lì con noi? Sì. Sì. Ci sono quattro persone qua sotto nella sala comando e quattro persone al piano di sopra. Perfetto. Easy peasy. Riesci ad individuare quali sono? Cioè, qual è il professore? Le quattro persone sopra stanno dormendo. Okay. Quattro persone al piano di sopra che dormono. Okay. Due piani sopra, il primo piano. Mm-hmm. Poi? E quattro persone nella sala comando. Okay. Le quattro persone nella sala comando sono sveglie e le quattro persone sopra stanno dormendo. Perfetto. Andiamo il professore su quelle che dormono. Ah, perché saranno i nervi. E andiamo su. È un po' crudele, ma avrebbe anche senso. Siamo qui nella sala comando. Il problema è cercare di capire se il professore sta dormendo oppure no. Non c'è una delle telecamere. Rega, andiamo su questi. Se passo un altro turno faccio altri due cloni. Sorpresa, no, sì, in realtà sì. Vabbè. Erano in questa stanza qua. Cioè, erano sì, nel corridoio. Corridoio. E anche nelle celle. No, siamo ancora. Ah, anche nelle celle. Vabbè, è buio. Nel corridoio delle celle. Vabbè, è buio. Anche in ogni cella. Non ho pensato del movimento, Void. Non ho ancora 27. Per ora no. Voi perché non ci hai ricordato le telecamere? Non lo sapevo. Ah no, ve l'ho detto io poi tra l'altra volta. Sì. Boh, mi sono scordato. Se volete. Telecamera, non dove siamo noi in questo punto. L'hanno già visto. In teoria, se stavano guardando, vi hanno già visto. Nella sala controllo. Però sono solo in quattro e noi siamo in 6. Esattamente infiniti. No, loro sono in laboratorio, però. Sì. No, nella sala controllo. In quattro. Bussiamo e li bussiamo. Fai dei cloni, mandane alcuni su a uccidere i tizi che dormono. Non sono mica così competenti. Diciamo. Io sapevo solo delle cose. Se dici vai e uccidi. Vabbè, raga, vai e uccidi, vado e muoio. Però. Esatto. In realtà quelli là finché dormono ci conviene. Se non ci hanno visti, approfitterei della cosa e andrei. È passato un turno e mezzo. Tirate iniziativa, va. Colpiamo subito. Posso fare altri due cloni? No, tirate iniziativa. Ti rubo un dado. 6. 6 la cosa di più 4 cosa avete iniziativa? Boh, riflessi, un di 6, 4 iniziativa, un di 6, 4 anch'io. Do intanto. Vabbè, con calma. Boh, raga, sti cazzi, io prendo il controllo migliorato. Group leader, e lo dovresti voler togliere qua. Ho usato 14. Sì, ho fatto 4. Spendo 20 punti esperienza. Addirittura. Cazzo. Perché ogni volta che lo prendi raddoppia il costo. Ma cosa hai preso? Controllo migliorato. Vado di 10. Scusa? Vado di 10, no? Di 8 di 10. Adesso sì, quello mi hai segnato. Ah, show, quanto hai fatto? 4. Beh, ti hai fatto 4? Sì. Quindi c'è Giulio, il potere secondario, Sceo e Katta. Lui siamo già in 3. Giulio, vai a disattivare la luce. Non mi scherzi, che se mi girano bene i dadi, adesso faccio un macello. I miei cloni ora durano un'ora in teoria. Ok, sono passato da media. Tecnicamente il libro ci serve. Devo ricontrollare, però mi sembra che sia un'ora. Ma no, in realtà, no. Quello che ci preme non farlo arrivare, professore. No, era solo perché dovete, siccome qualcuno di noi è un piromane, vai. Se ci serve il libro. Questo è il momento. Tocca a... Boh, andiamo, entriamo e entriamo e colpiamo. Siete qua in fondo, Giulio. Mi piazzo dalla porta. Ok. Scusa, se ho toccato qualcosa. Anzi, ma no, no. E... non puoi scrivere con il dito. Mi proteggo con lo scudo dalla porta. Aspetta, sono il campanello. Che gli altri mi seguono. Ok. Dietro di te, voi due. Io armo i miei cloni con due coltelli, una testa. Quanti cloni hai? Due. Per ora due, non me ne fanti fare altri. È passato un turno? No. Beh, posto. Io estraggo. Me vado anch'io verso di là. Ok. I cloni? Gli dico di seguirmi. Idem estraendo la katana. Tu hai potenziato il tuo potere, no? Quindi hai ancora il difetto minore, cioè il più piccolo. No, allora, l'avevo potenziato ma avevo anche abbassato il difetto. Esatto, quindi è il minore, il più piccolo. Okay. Esatto. Ale, un 1 e un 6. C'è uno che ti guarda e fa, forse meglio se io mi rimane in fondo al corridoio. Esatto. Beh, guarda che potrebbe essere un palo interessante. Ok, comunque. Quindi siete... Beh, rimane qua. Tu? Io, sì. Anche io mi metto dietro la strago alla katana. Katta? Vado dalla porta, dietro Giulio. Ok. Anche l'as vi segue? Che fino a dove riusciamo ad arrivare? Tipo qua. Cioè, se siamo alla porta. Sì. Zona della porta. Posso concentrarmi per... come fa quella porta? Come... quella serratura normale o una cosa non so strana. Se è aperta o chiusa, no, non lo so, ma è una porta normale. È una porta normale. Posso dire la mia? Secondo me stanno per arrivare. Non ha serratura, aveva un badge. Aveva un badge, era sì, quello sì, che sì, mi ricordava. Secondo me, però, è una porta tradizionale. Cioè, passi il badge. Cioè, siamo stati qua a pensare cosa facciamo. Cosa cazzo, le telecamere? Vabbè, tanto... Vabbè, no, sì, cambiava seguo. Poco ai fini del piano. Okay. Vi segue dietro di voi Laz. Poi dietro Laz, Void e ultimo Yak. Ah, Void è qua. Sì. Il clone di Vez è rimasto qua. Il mio clone è ancora più indietro. È il suo clone è ancora più indietro. Beh, tocca a Giulio. Potrebbe essere una retroguardia. Apro la porta e sparo. Faccio segno agli altri. Apro. Ok. Vai, vai. Provo ad aprire piano. Ok, apri la porta ed è chiusa col badge. Cazzo. No, non è vero. Apri la porta e dietro la porta ci sono due tizi a un tavolo che stanno palesemente giocando a carte. C'è un tizio chino su un computer e dietro di lui in piedi un tizio più anziano che assomiglia a quel professore più giovane che voi avevate... cioè, più vecchio che voi avevate visto nel futuro. Che il figlio del professore tira su del cioè, tipo il secchio d'acqua sulla porta che gli fa il gavettone. Ok, che si voltano a guardarti. Che c'è? Posso fare l'azione? Ho sbagliato. Cercavo il bagno. Il movimento mio amico hai aperto e poi il mio amico professore ti ho portato gli intrusi. Eccoli, siamo qui. E poi si tira da fuoco. Si intra. Aspetta, solo lui vede dentro per ora. Sì. Okay. Allora, posso, posso fare un po' entrare? Sì. Entro. Ah, si andava anche da qua però, volendo. No. L'unica porta di quella stanza lì. C'è qualcuno vicino, relativamente vicino? Ah, considera che i due tizi sono tipo più o meno qui, quindi non troppo lontani. Mentre qua giù sono delle console, robe varie, c'è una scrivania in cui c'è il tizio al computer. Ma Void, quindi questa cosa qua ce l'ha data per... Scusami se ti interrompo un attimo. Void ce l'ha dato per certo che c'erano quattro qua e quattro su e buona lei. Lui gli ha detto così. Okay. Sparo su... Sempre che Void sia Void. Sparo sui due più vicino, quelli che già ah, carta. Proprio così, Damle, va bene, spara, vai. Sparo a Yak, così. Ah, Dio. Sono. Noi facciamo quello che ci dice voi. Un cono di fiamme di... Tu devi andare alle 6, no? Sì, in teoria dovrei cominciare ad andare. Dai, due metri e mezzo? No, finisci. Dalla dash for, sì. Ok, allora... Ma devi lavorare? No. Okay. No, posso tardare. Un cono di fiamme lungo 2 metri e mezzo? Tanto ora gli che fa? Sì, da quello che ho capito, tipo adesso brucia anche il libro che magari poteva tornarci in più, però non l'ha visto. No, che schifo. Ah, è vero, il libro non l'abbiamo visto, in effetti. 60 danni. Ma tu alla fine sei armato di cosa? Di cosa? La katana, cioè. Ah, perché uno ha lo scudo. Quindi... Ah, voi vedete Giulio che entra un pelino, faccio proprio... sbatte la porta, perché ha fatto uno. Entra scudo, non riesco. Fuoco! Solo che si scazza e lo fa dietro lo scudo. Quindi esatto, si sta bruciando da solo. Vai. Uno becco busto. Ok. E la testa. Testa. Beh, ci sta, sono seduti. E di nuovo busto. 60 danni alla testa, basta. Okay. Mm-hmm. E l'altro becco. Braccio destro. Braccio sinistro. Sale alle carte così. E testa. Vabbè, quello perché il primo è quello col busto e la testa perché era dalla schiena verso di te. Quell'altro era di fronte, quindi becchi le braccia e la testa. E... ah, niente, voi ed sentite... è fiamma continua la sua. Sentite solo delle urla. I tizi si buttano a terra prendendo fuoco. E lo so, Giulio avanza, lascia passare. Tocca a sì, sì, Sceo e Vez. Io sono entrato. Che un'irruzione. Vuoi andare prima tu? Allora, io faccio altri due cloni. Ok. Perché è passato il turno in mezzo. Mm-hmm. E dico ai miei cloni, provando a dirlo anche a quello in fondo, tanto ormai... Non so se ti sento. Vabbè, sì, sei lì sulla tanto porta, ormai il casino l'avete dire. Fatto. Esatto. Sì. No, cioè, di... lo stanno facendo loro che gridano. Di andare... a quelli coi coltelli... Ok, uno solo ha il coltello, vabbè. Di quello di dietro. Di andare e uccidere il vecchio, colpire il vecchio. Va bene. Tira. Tiro tutti e quattro? Vedete perché non volevo usare no, il mio potere. Tre e poi quello dietro. Ok. 3, 2, 3. Ok, e quello dietro? 4. No, quello dietro arriva più o meno dove sei te. E gli altri si avvicinano. Esatto. L'ha capito bene. Uccidere i vecchi? No, si avvicinano. E gli altri usano i due movimenti per arrivare dal professore. Ok. Tu, Vez? Niente. Io... Beh, entra nella stanza intanto. Entro nella stanza e sto dietro Giulio. Ok. Sceo. Io sto nelle retrovie, mi supporto, in realtà è l'unico in prima linea. Allora, io non volevo usare il mio potere, perché domanda, se lui mi avrebbe trasformato in un killer psicopatico. Hanno gli auricolari. No, aspetta, cos'altro c'è? C'è il tipo col coso, però. C'è il tipo col computer, giusto? Sì, diciamo professore. Domanda, ci sono le guardie? Cioè, quei due che giocano a carte intuisco siano dei mercenari. Quei due che giocano a carte non ci giocano. Se arrivo dietro qualcosa... Sono in mezzo al fuoco. Ok. Gli altri entro due... Entro nel fuoco e... No, gli altri due. Uno è un professore... No, perché individuale. Uno è quello che... Intuiamo, possa essere... L'altro, come è vestito? Normale, non sembra un mercenario come gli altri. Ma gli altri sono mercenari, ma sono vestiti come voi perché sono dei tizi con i poteri arruolati dal professore. Sì. Non è che sono dei intravedo cosa sta facendo al computer. No, perché sei alla porta. Vabbè, faccio un passo dentro. Shotta quello al computer. No, nel senso, se è davanti a un foglio, sta giocando, non lo capisco. Shotta quello al computer. Vabbè, tanto ormai io vado sul professore. Multiplice assassino. Quindi usi due movimenti per arrivare al professore. Va bene. Sì, appunto al professore. Va bene. E catta. Perché magari l'altro è l'interprete che non ha senso ucciderlo perché magari è solo innocente. Ma tutti questi problemi te li sei fatti quando Giorgio ci ha detto tipo voi siete degli stronzi. Questo è vero. No, però vabbè, l'obiettivo della missione è uccidere il professore, quindi vado dritto su di lui prima che possa scappare in qualche modo. Prendo miglioria e comincio a accelerare. Va bene. Ah, quello che vedete è che il professore alza le mani, dice: perché? Perché mi volete uccidere? Siamo dalla stessa parte, parliamone. Tocca a voi. Voi di cosa fa? Niente. E neanche l'As fa niente. Ah no, l'As entra nella stanza. Il tizio al computer. Voi non fa niente? No. Tocca a Giulio. Aspetta, di il tizio al computer non fa niente. No, il tizio al computer alza anche lui le mani. Beh, abbiamo le nostre corde e rampini con cui legarli e disarmarli. E sta a me. Quindi... Fuoco ai cloni di Vez! No, vabbè, intanto spengo la fiamma. Ok. Perché... quelli stanno già bruciando. No, loro sono praticamente morti. Perché poi il fuoco si propaga e... E... vogliamo farci ingannare così dal professore. L'odore di barbecue ci fa venire fame. Io guardo Void con un punto interrogativo. Cioè gli vai proprio così. Poi gli altri? Allora, i due con cloni il fuoco di Vez provano ad attaccare il professore col coltello. Sta a me però. Posso ancora dargli un ordine diverso, no? Come vuoi, se no, cioè noi in questo turno uno col coltello e gli altri due proveranno a tirargli. No, voi puoi dargli un ordine diverso volendo, sì. Ci sta. Gli dico di bloccarlo invece di ucciderlo. Tira, intanto comunque non avrebbe ucciso. Aspetta, tirane due. Disarmati. 6 e 5. E quello armato. 1. Vai, tira per colpire. Cosa devo tirare? Di 6. Quindi adesso l'immagine che gli altri due l'hanno tenuto fermo. Lui arriva e... No, aspetta, prima gli altri due lo tengono fermo. No, ma lui non deve mica ucciderlo. Era per dare il comando. Sì, tesoro. Di bloccarli e non uccidere. I due l'hanno bloccato, quello armato invece lo colpisce. Ma tira i due che lo blocca. 2 di 6, sempre. Sì, in forza, sì, non so cos'è. 6 e 1. 6 e 1. Proverà a difendersi. No, beh, lui in realtà poi si lascia premere perché gli hai ordinato di bloccarlo, quindi lui non ha paura di morire. Perché pensa che lo... Niente, gli fai un mirato in testa. Col coltello? Eh sì. Ah, cosa devo fare? Niente, tira per vedere se lo colpisci. Cos'è, un di 6 sempre? Difficoltà è più 5. Però lui è bloccato, quindi è 0 più 3. 4. Colpito in testa, tira i danni. Cos'è col coltello? Sono di 6, penso. 4. Sono 40 danni. Per cui praticamente tu hai detto fermi, bloccatelo. Loro, lui si fa bloccare. Lo blocca con la testa. C'è uno... non la sta ammazzando. La fase, cioè, non l'ha ammazzato. Beh, insomma, no, gli fa 40 danni. Vabbè. Il professore sviene. Anche se non è tutto. 50. No, aspetta, non so se sviene. Cade. No, non penso. Se 10. Perde più della vita. Più della metà, scusa. Non è in forma. No, non penso che succeda niente. No, succede. Se va a zero, sviene. Se va a zero nella testa, secondo me muore. No, va in coma. Ah, ok. Se vai sotto zero, va in coma. Abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo fatto zero, va in coma. Però 10 no, non c'è niente. Vabbè, ci può stare, tipo cade a terra. Vabbè, allora lui il professore. Lui ha coltella, non è che lo sgozza proprio. Gli fa un taglio molto profondo in faccia. E vedete che il professore non se l'aspettava. Quindi rimane tipo in piedi. Ma quando l'avevamo visto nel futuro, aveva una cicatrice in faccia? No. E, dopodiché tocca a l'ultimo. Io non l'ho ancora fatto. Ah sì, l'ultimo. Sì, vabbè. Posso dargli un modo di dire diverso? No, non credo. Sì, può dargli. Boh, forse sì. All'altro che è di fianco tu a me. Tu uccidi quello che sta uccidendo il professore. Ok. Potrebbe farlo, in effetti. No, l'altro gli dico fermo qui. E tu? E Sara? Tu? E dico, e questo è per non darti l'idea di cosa fa. Sure. Come puoi vedere, i miei colori non sono totalmente... Beh, la mia idea iniziale era di, tipo, puntargli l'arma e minacciarlo di stare fermo, ma a questo punto non serve. Ok. E vabbè, lo faccio col tipo al computer, tu fermo lì. Vabbè, lui alza le mani. Sì, sì, vabbè. Ma c'è un libro lì, per caso, che vediamo. No. Vabbè, ora sì. Vedo il computer, che cosa? Vedi il computer, sul computer c'è una scansione del libro. Ok, quindi immagino che lui sia l'interprete. Esatto, e il professore, gli altri, Laz non fa niente, Yak non fa niente, e anzi sta fuori dalla stanza Yak, e Void è fermo lì che guarda la scena. Professore, siamo fuori turno? Il professore sì. Vede Void, in teoria lo conosce. Siamo fuori del turno, quindi tu puoi continuare a ciannellare in teoria, volendo. Se vuoi fare qualcosa di... Allora io disattivo il clone ribelle, disattivo il clone ribelle e poi dico al professore di chiamare gli altri sgherri e qua raccolta disarmati. Ma se li lasciassimo dormire, questa stanza è insonorizzata, quindi non ci possono sentire. Non li puoi controllare dalla sala, cosa? Non gli puoi dare un messaggio? No. Ma io li lascerei là. Posso fare un sociale per capire? Sì. 3. È un no, nel senso, penso che sia sincero. Pensi che sia sincero. No, non può farlo. Allora, spiegati meglio. Siamo dalla stessa parte. Io cerco qualcosa per dare più poteri agli heroes, per non farli... Cazzo, pensavo facesse, siamo dalla stessa parte. Della base, poi... Siamo dalla stessa parte, è inutile che cercate di uccidermi o di ostacolarmi. Io cerco di dare più potere a voi heroes, più potere, più riconoscimento da parte delle nazioni. Riattivo il clone morto. Voi cercate di uccidermi, ma così perderete solo. Tu hai provato a ucciderci. Io non ho provato a uccidermi. Sì. Claudio ha provato a uccidermi. Vabbè, chi lavora per te ha provato a ucciderci. Ma... O chi ha lavorato effettivamente per te. almeno tre volte. Come tre volte? Claudia è due volte testa di pera. Sì, perché non... Vabbè, testa di pera. Te la seconda volta non è colpa mia, no? E allora, diciamo che io non sarei voluto arrivare a tanto. Voi lavoravate per me, in fondo. Appunto. Cioè, un po' ingannato. Beh, no. È che il mio sogno di avere un mondo governato dagli Heroes deve essere realtà e ha dei costi. L'abbiamo visto il tuo sogno realizzarsi, non era un gran posto, noi eravamo morti. Come l'avete visto? Anche noi abbiamo i nostri punti. No, vi prometto, no. Che non è, vi prometto che non è il futuro che voglio io. Il futuro che voglio io è un futuro in cui gli Heroes e gli uomini convivono in pace, con uguali diritti, non come adesso. Gli Heroes sono uomini. È ritornato il mio personaggio all'inizio, con la sua idea politica che fate incazzare Giorgio. È inutile provare a uccidermi. Io sono dalla vostra stessa parte. È inutile provare a ucciderti perché è impossibile ucciderti o perché non dovremmo ucciderti? No, perché non dovreste, sono dalla vostra stessa parte. Ma tu hai poteri? No. Posso fare un tiro su sociale? Sì. Cazzo, 3. No. E parlaci un po' delle pietre, già che ci sei. A me non interessano le pietre, a me interessa che non ci sia più questa spartizione del mondo in questo modo mafioso, ma con la pietra che sto cercando di poter dare un potere a chi voglio e poter così far leva sui governi perché gli Heroes siano uguali alle altre persone e abbiano uguali diritti. Io sono una malformazione dell'umanità. Uccidete! Così non suona neanche male. No, ha già plagiato uno. No, mi prendete scemo. Però sì, effettivamente, cioè, io non ci sarà nulla che ti impedirà di andare oltre a questo bilanciamento e rivoltare le cose in tuo favore. Chi ti assicura che tu ti fermerai? Il tuo sistema non ha dei bilanciamenti. Appunto, alla fine non ti conosciamo così bene. Se fossimo noi a decidere. No, siete voi a decidere. C'è una questione. Void questa pietra di cui parli, come pensi di recuperarla? Non so dov'è la pietra, ma pensavo di mandare qualcuno a prenderla. Punto plot. Vabbè, ci sta, dai. E dove lo sai già dove trovarla? No, ci sta. Cosa vuol dire? No, perché dovrei dare informazioni a voi? State cercando di uccidermi. Appunto. Aspetta, sei tu proprio che devi per evitare di morire. Non so, sono confuso in questo momento. Sei tu che devi convincerci a non ucciderti. Io... Devi convincere noi altri, ci ho già convinto. Adesso quasi mi dispiace aver ucciso quelle due persone. Noi siamo dalla stessa parte, cerchiamo il bene per gli Heroes, quindi lasciatemi libero. Sì, lasciatemi, sono un assassino normalmente. Prometto che non vi perseguiterò per quello che avete fatto ai miei colleghi. Le promesse in passato sono state sempre vane. Non mi pare che fossero professori, anche loro. In più noi abbiamo visto su di te alcune cose. Potete fidarvi di me o uccidermi, non mi interessa. Non ti interessa. Perché non ti interessa? Non parla più. Non lo so, raga. Void? Non posso entrare nella sua mente. Grazie, però cosa pensi? Avrai un pensiero tuo? Nella tua mente ci puoi entrare? Non mi fido del professore, se pensate sia meglio ucciderlo sono. Cioè, alla fine voi. Noi siamo arrivati qua anche per quello che tu ci hai detto. Sì, io, il libro non c'è, se volete è l'occasione per fermare il professore. Posso fare una cosa non posso dirvi di ucciderlo. Io mi rivolgo all'interprete e gli dico, tu sei qui da giorni col professore, che intenzioni hai il prof? Vedete che io sono stato pagato per tradurre il libro, non so niente. Sì, ma dai, siete qua da tanti giorni, avrà detto qualcosa. Il libro. Sì. Va bene, intanto allora... vedete che il professore sta continuando a sanguinare. Perché sta continuando a ferire. Vabbè, quindi tecnicamente se aspettiamo muore da solo non è una nostra, non l'abbiamo ucciso noi, ma un clone. Che non esiste più. Non l'ho ucciso Void, io. Void, l'unica cosa che vi dice Void è, questa secondo me è l'occasione per fermarlo per sempre. Infatti, però potete decidere voi se ucciderlo o consegnare le autorità. Che autorità? Scusa, se l'alternativa di non ucciderlo, cioè se lo vabbè, curiamo intanto, lo leghiamo, lo portiamo con noi, può estorcere le informazioni. Lui l'ha avuta la sua occasione, se vuole dirci dove sono... Fondamentalmente se uccidiamo lui adesso non sapremo mai nulla delle pietre. No, ma infatti lui ha la possibilità di darci adesso l'informazione sulle pietre e noi lo lasceremo vivo. Ma sono abbastanza convinto che non lo farà. Ah, allora morirà. Prof, qualche Giulio, qualche scelta? Tu che sei abile con i computer, prova a vedere se ci... Posso fare un sociale. Vabbè, per convincerlo a... Sì, puoi anche argomentare. Sì, no, l'argomento, gli dico, guarda prof, noi non ci fidiamo di te, molto semplicemente. Lo intuisce, lo stiamo per uccidere. E... Rega, basta un timer. Basta un timer. Metagame. E noi non ci fidiamo di te, professore, però se tu ci dai l'informazione di trovare questa pietra, ti lasceremo lavorare e andremo a cercarla noi. No, voi c'è... volete la pietra per il vostro di... bene personale? No, noi vogliamo la pietra, no, per noi non ci interessa, noi vogliamo la pietra per toglierla a te. Anche se decidiamo di non ucciderlo, c'è qualcuno che ha modo di curarlo. Ci fidiamo più di voi che di te come guida. Fallo, intanto. Ci fidiamo più di Void come guida. Certo, fidatevi di Void, uno che mi ha tradito in passato. Esatto, non ha tradito noi però, come te. Per ora. Per ora. Tu invece l'hai già fatto un paio di volte. Ma in realtà non vi ho mai tradito. In realtà ci hai tradito dal primo momento. Hanno provato a ucciderci. Tu hai segnato. Sei stato tu a darci i poteri, tra l'altro. Sì. Perché l'hai fatto? Per vedere se riuscivo. Già. Vabbè. Ah, è vero, c'è quella volta che hanno provato ad uccidere. Congratulazioni, il tuo esperimento ha funzionato. Clone. Clone di fianco sì, a me. Sì, ha funzionato. Sì, penso che ha funzionato. Rega, se mi date l'ordine, dico al clone di uccidere. Vedete che lui... Okay. Vedete che lui sviene. Esatto. Bastava aspettare. Non lo so, non mi sento a mio agio a dire... A uccidere una persona, neanche io mi sento a mio agio. Per questo ho detto da uno che ha dato fuoco a due persone così. Esatto, loro sono morte. Quelli erano NPC, però secondari. Onestamente, loro non sono morte. Sono morte, sì, ah, cioè, ce ne ha fatta danni alla testa e li avete lasciati bruciare così a muzzo. Oh, bene, interpreta il tuo momento. Dove si trova la pietra? Che cosa hai interpretato? Io non so niente. L'unica cosa che so è che ho mandato non farmi del male, ti prego. Ti quindi rispondi. Stupido. Se rispondi, non ti faccio del ho male. Ho mandato questo report a questo indirizzo. Io abbasso due ore fa. Eh? Ho mandato questo report a questo indirizzo due ore fa. Cosa c'è nel report? E vi fa vedere un documento. L'indirizzo è un indirizzo di. Che mail. C'è nel report? Nel report c'è scritto. C'è scritto tipo dettaglio sulla traduzione. E c'è scritto che la pietra è custodita in un'isola. La Gran Bretagna. Ok, ne facciamo una copia dei file, però c'è qualcosa che non mi torna nel professore. Il professore bisogna ammazzarlo, vedi? È già morto. No, vabbè, si sta dissanguando, lo lasci lì muore. No, perché ci sono i suoi scagnozzi lì, dobbiamo ucciderlo. E se il professore non fosse il professore? Esatto. Anche beh, quello pensato, mi sembrava troppo pleggiato per accettare così la morte. Più che altro forse ha un altro modo di vivere lui. Anche lui ha un prestanome. Prendiamocelo dietro. Le prendiamo dietro e poi lo mettiamo dove. Cioè ragazzi, non abbiamo strutture eccetera. Void, tu non riuscivi a entrare nella sua mente. No, ma tra un po' non riuscirò mai più, nel senso che ma è praticamente morto. Se io faccio questa proposta... lo stabilizzo. Yeah. Ma se io faccio questa proposta, lo stabilizziamo, lo portiamo al covo e decidiamo dopo. Lo interroghiamo. Perché magari non è il professore. Voglio essere certo che sia il professore. Quindi mi prendo il professore mi ha detto che non ha, che non ha poteri e mi sembrava onesto. Se però Void non riesce a entrare nella sua testa, qualcosa c'è di losco dietro. Questo sto dicendo, hai capito? Ragazzi, uccidiamolo e andiamo. Inoltre hanno mandato un report. Void? Hanno mandato un report a un indirizzo mail. Che senso avrebbe mandare un indirizzo mail? Questo non è il prof. Io sono convinto che non sia il professore. Io lo porterei con noi e lo interrogerei. Cioè, andrebbe ammazzato comunque. Forse andrebbe ammazzato anche Void. Questo lo dici? Questo lo dici? No, non lo dico, ovviamente. Beh, ovviamente se lo pensi. No, ovviamente non lo dico, però lo penso io, nel senso che secondo me Void... Cioè, Void che ti sta guardando malissimo. No, ma io non l'ho detto. Chi se ne frega. Esatto. Ah, perché l'ho pensato. Sì. Cazzo è vero! Vabbè, se non avete il coraggio voi di farlo, lo faccio io. Vedete Void che si avvicina. Void, quello non è il professore. Prende il coltello al tuo clone. Il mio clone no, non c'è. Posso provare a fermarlo? Ah, prende il coltello a terra mm-hmm. e uccide il professore. Posso provare a fermarlo? Okay. Sì, se vuoi fermarlo con una forza, fa una bella forza. 5. Cioè, in realtà non volevo pensare e uccidere anche voi, però dubitare su Void, quello sì. Quanto hai di psiche? Pieno. Cioè? Cioè. Ok. Perché mi hai fermato? Ah, l'ha fermato? Non è il professore, perché ucciderlo? Perché non è il professore? Lui è il professore, ho lavorato con lui. Secondo ma te è il professore? Secondo me lui è il professore, allora... però tu chi sei? Cioè, tu sei Void, ma chi sei davvero? No, io non credo che sia il professore. Allora perché non riesci a entrare nella sua mente se dici che non ha poteri? Non so se non ha poteri. Cazzo, Eva, quello che poteva fare il coso. Allora perché manderebbero le informazioni ad un indirizzo email quando il professore non è lo già so, qui? Uccidiamolo e vediamo. Perché non interrogarlo? Potrebbe avere più informazioni che un semplice indirizzo email. Le informazioni ce le ha anche già date, non è quello il problema. Non ha detto molto. Abbiamo il report del posto dove... Dove sta la copia originale del libro? Chiedo al traduttore. Non lo so. Tu vedi solo gli scan su questo computer. Come siete entrato in contatto con te il professore? Sono solo scusate, ma persone nella base. Tu l'hai curato? Sì. Tira su mente. 2. Niente. Traduttore, gli chiedo, ma il professore come è entrato in contatto con te? Posso chiederti? Cioè, posso chiederti? Mi conosceva uno di... ed è spaventatissimo. Uno di loro mi conosceva. Di quei ragazzi che avete bruciato vivi. No, mi volevo. Vi prego, vi prego, fate qualcosa per aiutare quell'uomo. È a terra, sta morendo. No, è già stabilizzato. È a posto. Ah, ma non respira. Check... Non ha battito. Rosso 4 controlla. Il professore non ha battito. Com'è possibile? Scusa, ma... cioè era vivo quando l'hai curato. Può essere che Void lo stia uccidendo in qualche modo. Non so. Vedete che lui alza le mani, Void, e fa vabbè, sei morto, e butta il coltello a terra. Secondo me l'ha ucciso Void, questo lo dico da giocatore, il mio pensiero, che Void l'ha ucciso in qualche modo. La ferita che gli abbiamo fatto, ci la esamina? Ah, la ferita è una ferita normalissima, mm-hmm. E basta, è uscito del sangue. Ok, non è un robot per questo. No, però tira su mente. Uso un punto psic. Va bene. Ah, non si poteva su mente. No. 2, e ti sembra una ferita normale. E quindi ti sembra che sia uscito il sangue sia normale, tradizionale, niente di particolarmente strano. A me non mi torna, per me c'è qualcosa di strano. Vedete il traduttore che fa, scusate, mi ha contattato il mio amico, io devo solo tradurre il libro e mandare il report a questo indirizzo, basta. Già, mi dispiace. Se volete informazioni provate col telefono del professore a guardare bravo. Questi computer, non lo so. Grazie, io guardo nelle tasche del professore. Fatemi uscire, vi prego, non ho fatto niente io. Il domanda tranquillo, questo lo chiedo, cioè, vabbè, lui lo potremmo prendere con lui. No. Controllo le tasche. I caschi coprono la faccia. No. Hai preso il casco tipo antisommossa, no? Quello che alto. Non abbiamo messo passo montagna effettivamente. Ma l'avete detto. No, dicevo, io guardo le tasche del pro. Ok, il professore ha in tasca una penna e un telefono e un portafoglio. Nel portafoglio ci sono 100 euro. Ok, che quelli li prendo, grazie. Devi dire qualche dei soldi a qualcuno. Vabbè, no, non per i soldi, i documenti mi interessano. Non sono. Non c'è professore, la carta di esame. Esatto, professore. No, vabbè, però la foto. Il cellulare si apre. Il cellulare si apre, sì. Non è sbloccato. Non è bloccato. Impronta digitale. Vabbè, però si sblocca, normalmente. Messaggi. No, vedete che non ci sono messaggi. È una fregatura in verità sta roba di sì. Se ammazzi, se sgozzi un tipo. Esatto. Sì. Ma c'è un numero che è stato chiamato di recente più volte. Signora. Qua però non prende. No, il numero è salvato. Come, professore? No, non è salvato. Come è voi? Numero, no. Vabbè, però lui con Obi... suona il telefono di voi. Però lui, pronto? Lui con Obi internet. Però, tutto a posto. Lui con Obi internet. Fai un tiro percentuale. per vedere il punto fato. Hai il 50% che il cellulare squilli ora. 50 negativo. 65. Non so. Però lui... Katta sblocca, cioè togli la cosa dell'impronta se riesci. Così lo possiamo utilizzare. Devi sapere... Posso anche copiare sulla sua mano. Sì, devi sapere... Puoi copiare il numero. Sì, no, dico per sbloccare il cellulare, lui dice. Devi sapere il PIN. Il corpo lì. Così lo possiamo, ce la possiamo portare dietro. Oppure c'è un'alternativa. Chiamare il numero. No, tagliare il dito. Non siamo in dungeon se non c'è Giulio che vuole mettere pezzi nel corpo. Che fosse chiamare il numero. E tipo Giulio, no, con, la, con, aspetta, con l'ana, con tutti. Aspetta. Non era questo, non era questo. Allora. Possiamo prendere il cellulare e farlo accadere la sua doccia. Comunque. Aspetta, fermo un attimo. Io sono ancora più o meno in lotta che con qua non prende, mi sento. Ah no, voi c'è fermato. Ma c'è fermato. C'è fermato. Ma il telefono non prende, giusto? Sì, prende il telefono. Però non prendeva quando eravamo... Il nostro. Magari questo era... Okay. Io posso copiare la sua voce e sì, parlare con questo numero. Prova a chiamare. Quindi... Cianello e sì. Assumo la... Metti la voce. Corde vocali del metti professore. La voce. Aspetta. Void come registra? Il tizio deve star zitto, però. Void. Il tizio deve star interprete. Tira, no, sociale. Imbavagliamolo, più semplicemente. Ah, giusto, ti l'osservazione. Cloni! Bloccatelo, uccidetelo. Deve star zitto. Fai cheese, sorridi. Io non parlerò, vi giuro. E voi come reagisce l'idea di chiamare questo numero? Assolutamente niente. Ok. Possiamo far svenire. Chi? Il tipo. Ma c'è il pannello di controllo con le telecamere? Sì, che vanno. Sì, quindi sì, possiamo vedere cosa succede nella base. Sì, nelle stanze con il coso sì. Chiudiamo la porta comunque. Non mi ricordo se erano nelle camere. Nelle camere non c'erano... No, però, no, vabbè, però se si muovono, esatto. Chiudiamo la porta. Sì. Okay. Viva voce. Oh, qua però si lutta di brutto. Viva voce. Lo dico. Ma non c'è niente, il cazzo lutti. Dovranno delle cazzo di macchine, l'altra volta vai a pieno di Roma. L'altra volta. Adesso c'erano quattro ragazzini sbarbati che li ha bruciato anche solo che loro una volta la gioia anche solo che abbiano 100 euro a testa in tasca in arma ce li portiamo via. Tu sei il ladro di bassa leva, abbiamo il carro armato, però si ruttiamo nome tipo punto c'era no c'era progetto mutate no boh c'era tipo Mr. Bean un nome strano sta cosa, il professore anonimo che la ok, chiami e senti che risponde una voce femminile, fa pronto? Non è Claudio, tutto vero? Bene? Insomma, ho un po' di mal di testa. Tira su succede. non riconosciamo la voce. Ma porca fa sempre due sto dado. Hai mal di testa? Devi usare la psi su social. No, su sociale, su mente. Ma è importante che non abbia mal di testa il traduttore. Sta bene, ha mandato un report, vi è arrivato? Sì, l'ho visto. Come, che te ne pare? Cosa pensi? Penso che sia strano che tu mi stia telefonando. Volevo avere un feedback sul lavoro. L'avevi appena dato tipo un secondo prima. Quanti siete a ascoltare questa chiamata e chi siete? Siamo i ragazzi col traduttore. No, chi siete davvero? I ragazzi col traduttore, in effetti. Io ti faccio segno. Fai parlare il traduttore. Cos'è la cacchetta? Io sto ascoltando. Tranquillo. E questo è il traduttore che parla. Senti la voce femminile che dice: perché mi stai chiamando? Non ho capito. Mi devi far parlare con qualcuno? No, volevo essere sicuro che ti fosse arrivato il feedback, e il report e avere un feedback su quello che abbia fatto. Chiunque voi siate, sappiate che cancellerò tutte le tracce del libro su quel computer tra 10, 9, 8, 7. Aspetta, a meno che non sia stato tutto. 5. Io uscirei. 4, usciamo dalla stanza. 3, boh, usciamo. Direttiva i cloni e usciamo. Ok, voi uscite di velocemente e vedete semplicemente che il computer si spegne. Ci buttiamo a terra. Bene, sappiate che quello che avete ucciso o immobilizzato, ma ormai penso sia morto, era uno dei miei fantocci. Ah, un professore. Sappiate che ho io il libro. E le informazioni che avete non saranno sufficienti a trovare la pietra. E che la prossima volta che vi incontro vi uccido tutti. e chiude la chiamata. Bene, e finisce qua la puntata. Beh, la cosa positiva è che non è il professore. Però luttiamo un po'. Io guardo verso Void e dico, visto che non era il prof. Grande, scio. Ok, ora dobbiamo solo occultare tre cadaveri, pensare cosa fare. Ma andiamo via, basta, non occultiamo niente, andiamo via. Tramite il portale. Io prenderei quello che distruggere tutte le prove. Allora, volete vedere qua adesso cosa, cioè vi dico adesso cosa trovate? Io vorrei prendere la roba. Beh, tu hai già bruciato parte della stanza. Allora, allora l'equipaggiamento, allora, l'equipaggiamento della, gente che avete ucciso non trovate nulla, mm-hmm, perché è bruciato. Certo. Il traduttore non ha niente con sé. Immagino che voi adesso non giocate il fatto che andate di sopra. Allora, il discorso è questo. Noi vogliamo sfruttare il fatto di poter vedere i movimenti su... per cercare di vediamo. Vabbè, questo non lo fate oggi, immagino. Ok, perché sono le 6:30. Vabbè, allora guardiamo cosa c'è in questo piano. Quello che trovate in questo piano è il computer, che ora è oscurato, però magari potete tirare fuori qualcosa. È un portatile. È un portatile, sì. Allora ce lo portiamo via. C'è lo schermo con le telecamere, eccetera, e altre robe. Quello che avete trovato dal professore e il tizio e basta, non c'è nient'altro. Io la penso, ma nel laboratorio niente. Quello che avete è anche sono anche dei report, dei documenti, dei report che il traduttore aveva fatto prima. E avevano stampato. Domanda: la penna è una normale penna? Visto che la penna è una normale penna. Come ti chiami? Questo è il traduttore si chiama Michele. Magari era un'arma, una roba. Report si chiama Michele il traduttore. PC per C, PC sciottato, come si dice. Oscurato e basta, non trovate nient'altro nel laboratorio, non c'è più niente. Le celle ci assicuriamo che siano tutte vuote, nel dubbio. Guardando le telecamere, tipo nell'hangar centrale, cosa c'è? C'è una macchina, c'è la macchina e basta. No, non una macchina, c'è uno di quei tipo furgoncini che c'era l'altra volta, ma non militare stavolta, è un normalissimo furgoncino. Riusciamo ad intuire che gli altri tizi stiano ancora dormendo. Non vedete i tizi nelle telecamere. Questo possiamo, perché comunque rumore possiamo fare due cose: o ucciderli o provare a dai fuoco a tutto, a convertirli. Vabbè, ci pensate intanto di credo che pensate intanto direi noi che andremo via oggi dai va bene. Comunque direi che distinto noi andremo via a questo punto, non andremo su uccidendoli e rubandogli la roba, dai. Io distruggerei tutto e andrei via. Se c'è modo di distruggere tutto. Ok, un po' di tempo, ce la faccio. No, però... sì, beh, poi se creiamo un incendio nella cosa nella sala sistemi, sì, secondo sì. Me la puttana. Ah, finalmente possiamo usare chimica, catta! Esplosivi! E quello sì, no, quello sì. Se c'è un'entrata dell'aria qua, perché una volta che finisce l'ossigeno, così. Ma credo, faccio un buco con antimateria. Ma apriamo la porta su. Una botta. La facciamo esplodere. No, faccio un buco con antimateria, un bucherello. Beh, la scatola macchina non ha senso prenderla. Beh, con cose di aria ci sta. Ma riusciamo a in questo posto. Domanda, i mercenari capiamo che equipaggiamento però se magari non c'è il bruciato interno, se si rompe qualcosa, cioè se avevano delle armi in realtà come... quello da capire è cosa no fare, no come armi tipo, se avevano un'arma alla cintura anche se è bruciata lo capiamo, non ne avevano, quindi avevano solo dei poteri probabilmente. Erano... Ah, se lo metto nell'equipaggiamento che abbiamo preso, Michele il traduttore. Dai, bene, chiudiamo, dai. Va bene. Dobbiamo anche occuparci dei tre cadaveri. Vabbè, quello mi sembra. Beh, se distruggiamo tutto, vabbè, il fantoccio. Boh, ma se distruggiamo tutto. Vabbè, ci pensiamo la prossima volta. Salla vuole chiudere. E... Non so che voglio chiudere. No, no, io devo andare adesso. Non va bene. Hai visto la. Avete visto il 21esimo episodio di Unstructured Heroes? No, è il primo episodio della seconda stagione. Beh, allora è già iniziata. Il primo episodio della terza stagione. È tipo la stagione inglese, con gli episodi a capo. La seconda stagione è stato lo sciopero dei... Esatto, degli sceneggiatori. Sceneggiatori. Era il potere dell'occhio, hai detto. Auron? No, è un collegamento con... che non capiremo, se non tra l'altra campagna. Il potere dell'occhio e... vi ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons e anche su quella di RIGDR, sul blog che è rigdr.wordpress.com. Come potete su vedere. Ogni tanto anche sul YouTube di RIGDR. Esatto, bravo. E vi diamo appuntamento ai prossimi episodi che saranno ricchi di sorprese e di... E se magari lui aveva i pubblicità appunto con tanti fantoni sono stati in serie. E il, vi diamo un'altra notizia. Sì, oggi avete visto dal vivo il nostro sceneggiatore con questa luce che gli passa sopra come se fosse arrivato qua. Esatto, in realtà era un ologramma, non è Skynet. No, però lo rivedrete però tra poco lo rivedrete più spesso, perché per un mese vediamo questo preview, sarà con noi, per cui qualche volta lo vedrete dal vivo. Quindi giocherete senza di me probabilmente. No. Va bene, vi ringraziamo per averci seguito, salutiamo ancora una volta gli amici di Tinat Games e ho detto che è il professore. Vi auguriamo un ultimo buon giorno di Luca oggi, direi. Ormai è quasi finita. Sì. Luca Comics. Chiudiamo il Luca Comics. Domani è l'ultimo. Domani è l'ultimo. Ah, domani è domenica. Sì. Ok, allora un ultimo giorno di Luca Comics. È stato ricco di spunti anche questa volta. Ma lo voglio fare. E niente, vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito, per aver fatto dei messaggi che io non ho cagato, ma erano wow. Erano wow. Va bene, grazie. Vi ringraziamo e vi salutiamo ai prossimi appuntamenti di Structure Hacking. Ciao Lu. Ciao. E addio anche a voi amici del podcast.